Ti sto Partiamo. per cambiare il mio microfono, però. La diretta è partita. E Salla gioca i giochi più giocosi dei giochi. Non già capito, purtroppo Non l'abbiamo gioca più scusi. disturbato, Va eh. bene, benvenuti, bentornati qui con Tycoons & Dragons Dream GDR. Bene, sì. Oggi episodio numero 82 della maledizione di Numero Catan. 80 voglia di Ci morire. ritroveremo col Total Party Kill e forse ci riusciremo Anche lui non finalmente. ci ascolta. Ah, ci ha mutato proprio Salla. Sì. Minchia. Aveva detto sto cambiando le cuffie. Lurido! Sto Lurido! cambiando le cuffie, ma non vedo cuffie, quindi. Cavolo. Credo non ci stia No, neanche mi sono giù anche le cose. non ci guarda e non ci ascolta. Va Però ho bene, capito che stiamo cercando di interagire con lui, cioè contatto con lui. Va bene, va bene. Infatti. Edoardo Saladini lo vedete, ma non lo sentite. Forse in realtà potreste benissimo sentirlo, però Ma lui non no, sente, sicuramente lui non no, sente sento noi e voi. non ha intenzione di sentirci. Comunque, oltre a lui, Marco Bosi, Giulio Bosi, nostro master, Enrico Catabriga e con me Andrea Giacomo Vecchio, qui ho il piacere di presentarvi Stefano Sera, Gamberoni. sera, salve. Oggi giocheremo, come dicevamo, 82esimo episodio, la maledizione di Catta, che è una campagna che Maledizione. ormai, che è una maledizione, scusate, ma è una campagna che non ha bisogno di presentazioni. Noi comunque la presenteremo facendo lo stesso un riassunto. In realtà, Giulio. Vez mi aveva chiesto se giocavamo ai giochi da tavolo, però vabbè, dai, giochiamo a Dungeon questa volta. La Va bene maledizione di così. carta da tavolo non so se sarebbe, legale. Parte intanto la sigla, ricordandovi che voi ci potete comunque seguire sui nostri canali social, Tycoons Ah, & no. Dragons, GDR, Facebook, Instagram, YouTube, bilibili, bilibili. E adesso poi la condividerò questa anche su Facebook. E campagna di Dungeons & Dragons 5.0, lo sapete benissimo. Facce stranite, Marco che mangia un tipico piatto tedesco che è il kebab, ed è davvero un piatto Eh tipico. sì. Non è un burrito, va bene. Che Tipico cos'è? tedesco comunque, no? No, quello no. E che cos'è? Una cosa oscura. Vabbè, non so se la vogliamo sapere. Riassunto, lo vogliamo far noi? Te hai detto che non ti ricordavi un Io cazzo perché dormivi. sì, Bene, mi sembra ultimamente un ero un po' ottimo. stanco da Allora, siamo al dunque, siamo quasi nel 15. castello di Strahd, siamo a questo ormai da tipo 40 Sì, puntate, esatto. però finalmente abbiamo sconfitto più o meno tutti i nemici che c'erano prima di Abbiamo affrontare deciso di veramente il affrontare le nostro. nostre paure e andare dritti verso il Esatto, male. abbiamo risolto. Cioè, Finalmente. in realtà tipo tre quarti di puntata, Katta ci ha comunque messo i bastoni tra le ruote perché Come? dovevamo Vabbè, ma capire volevi che aprire tutte dovevi le tombe, Vez. passare di qua, di su, di giù per andare di là, va bene. Abbiamo risolto 18. Abbiamo risolto la pratica delle catacombe e ci siamo, diciamo, e abbiamo scoperto di essere quasi in ritardo, anzi di essere in ritardo per l'inizio della cerimonia. Ma arriviamo al Imperdonabile. momento topico, tornando appunto al piano superiore. Perché è il momento in cui Strahd e Irina stanno finalmente convolando a nozze e noi decidiamo di fare quello che ci viene meglio, cioè rovinare la storia, Qualunque sostanzialmente. cosa. Qualunque cosa. E quindi ci opponiamo, io faccio una super filippica ma non prendo l'inspiration. Ma ce l'hai già. No. Prendi l'inspiration. Oh, così! No, vabbè, dai, Un un inizio po'. sessione da paura. Però almeno si lo stesso. Possiamo stare qui. Esatto. Se, No, vabbè, dai, però avrei. intanto. No, beh, non è giusto. Però sì. No, è giusto. Cioè, se mi fossi ricordato, te l'avrei data. Cioè, pensavo ce Vabbè, l'avessi io già. non Come volevo. l'hai Io usata? le ho usate. Ma io le uso di solito. Me Le ho l'avete data a me usate. anche quella? L'ultima che ho usato, L'avrà data però. Garrosh. L'ultima che ho usato, Può secondo me, essere. l'ho proprio. L'ho proprio usata male. Cioè, usa male, ci stava, però ho fallito malamente. Vabbè, Comunque. molte le regalate a Scio senza motivo, quindi No, cioè. quello era Salla in realtà. Il Sì, più secondo me è dolorante è stato Salla. Salla. Poi forse qualcuno gli abbiamo Sì, proprio te le ho date copiato. tutte, Però io Sceo. ce Te le ho l'ho adesso. date Io ce tutte. l'ho, quindi se qualcuno vuole potrei ricambiare il favore, basta dirlo. Ah, sono full. Ah, strano, non ci hai mai furto. Non capito male. Sì. E noi altri no, ovviamente. E non volevo fargli vedere il piano di battaglia. Sostanzialmente ci opponiamo al che Strad ci revoca, diciamo, i privilegi degli invitati, che chissà poi che gran privilegi che fossero, visto che avevo combattuto dal primo all'ultimo secondo. Comunque va bene, e diciamo che formalmente ce li revoca e inizia il grande scontro, dove sostanzialmente Strad, da, diciamo, cuor di leone, si va a nascondere in mezzo alla folla che cerca di scappare in tutti i modi. Non riesce però a fuggire dal cono di gelo, dico giusto Marco? Di sfortuna, che praticamente ha pietrificato praticamente l'80% della sala. E vediamo che effettivamente c'è anche Strada lì in mezzo. Al che io provo ad andargli addosso, gli arrivo a un palmo dal naso e lui scappa sostanzialmente. Altri personaggi che fanno parte del gioco sono, direi, Radi su Bucefalo, e poi ovviamente l'immagine c'è, ma lui è lì a piedi. Sì, sono arrivati anche i nostri amici corvi. Come, mi aspettavo che in mezzo a tutti gli invitati ci fosse lui da solo, l'unico a cavallo in mezzo alla sala. Ma in realtà ci stava, sarebbe stato figo affrontarlo con l'alce. Ah, è vero. Ma bello. Ovviamente, tipo, anche perché tu praticamente tipo, oddio, abbattete quell'alce presto! Sì, esatto. No, ma sarebbe andata che il cavallo ci passa, ma l'alce no. Ovviamente. Sarebbe finita così. Ovviamente è molto più grande. E i corvi e Ilia sono dei nostri. Ilia ci ha guarito, non mi ricordo. No. Ilia è arrivato e ha smazzolato. Ilia sta picchiando il prete. Che stava officiando il matrimonio, che altri non era che e il prete a cui abbiamo ammazzato il figlio, padre Donavic. Padre Donavic, perdonaci. Niente, dai. Questa icona invece cos'è? Irina? Sì, quella credo sia Irina. Questa è Irina. Sotto. E questo sotto? Ok. Sotto Ilia? È il reverendo. Reverendo è il padre. Qui c'è padre Donavic che stava. E poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 progeni vampiri. Sì. Alcune in mezzo alle statue di ghiaccio che si sono formate dai cadaveri di quelli che sono stati investiti dal cono lanciato da sfortuna. E altre cose di interesse che sono successe nel turno, appunto, c'era Radin che era andato verso un lato della sala facendo qualche cosa con un piccolo strumento a fiato. Race, da porno. Race ha lanciato Mirror Image. Ah, è vero che ho fatto un incantesimo dopo anni. Esatto, ha spolverato il libro degli incantesimi. È vero che ho degli incantesimi. Athanas ha attivato la sua spadina magica per lanciare Crusader's Mantle, quindi tutti gli attacchi dei suoi alleati hanno un di 4 danni radianti. Ho usato il medaglione, sì, tant'è che lui adesso... Tu hai usato il medaglione. Sì. Tu hai usato il medaglione. Avevo segnato qui la versione da un'ora e mezza, da 10 minuti, perché è un concerto. Dai. Avevo trovato questa versione. Allora, già solo il fatto che non sia stata l'altra volta è per le mie orecchie. Ora l'hai detto, qualcuno la mette. Tu scherzi? Ah, io la metto di sicuro. Cioè, io la uso adesso come rilassante. Quella. Come rilassante. Sì. Ma l'ho ascoltata più di una volta l'intera ora. Fantastico. L'ha messa in loop. Allora sì, io ho segnato che tu hai usato 2 cariche del medaglione. Sì, l'altra volta. Sì, e poi ho usato le 5. Adesso quella da 5 ho usato. Esatto, e poi ho usato quella da 5. Ah, allora non l'avevo segnato. Due le aveva segnate, cioè due le avevo usate distintamente. Tant'è che avevo fatto, cioè chi adesso è nella mia area e lui c'è, perché inizia l'area dentro. L'hanno visto, si becca dei danni, credo. Sì, da luce di uno. Cioè, non mi ricordo come. È al sole, in pratica. all'inizio del loro turno beccano danni radianti. Allora, cliccare lì, 5 cariche generale, cliccare di testuale, magari. Di Brock. No, quello di Sunlight. Ok. 5 cariche. 10 minuti. Quindi 60 30, piedi di raggio. 30 foot radius. Dim light. No, for an additional 60. 60 piedi. Prendono 20 danni radianti quando iniziano il loro turno sotto luce solare. Però è 50 e hanno... è 60 che devi guardare. Sì, 30 più 30. E hanno svantaggio su tutti gli attacchi e gli ability check. Ok, mettiamo fine a questa cosa. No, c'è bella, c'è bella, c'è bella, c'è bella, dai. Sennò poi metto l'altro, lascia così. Sì, hai ragione. No, poi metto l'altro. È fighissima questa versione, però, davvero. È un concerto. Dei, come si chiamano? L'uomo Yasuo Pei? Sì, quelli lì. Yasuo mid ban perma ban. Yasuo mid full AD, full attack speed. Sì, continuo a leggere delle belle cose su Arcane. Dovrò assolutamente. Ma devi muoverti, dai. Allora, dai. Altre cose interessanti che sono successe. Fortuna ha usato Cono di freddo. Uccidici tutti e vai a guardare Arcane. Guardiamo tutti insieme. Esatto. Facciamo la, come si dice, con Bez. Vai. Gioca Dixit in due. E quindi, e... guarda Dixit. Madonna. Giocate quando non ci siamo io e Giulio, che raga, ma nessuno ha capito il King. Che altrimenti massacriamo. Non c'è storia. Raga, ma carta che non ha capito il King è già problematica. Non ci siamo neanche impegnati quella sera. Katta non ha capito il King perché lui è il King. Quindi, non si è riconosciuto. È come dire, vabbè, ma è come dire, sei in mezzo alla foresta, non, sei in mezzo al bosco, non vedi il bosco, vedi gli alberi. Lui non vede il King, lui è il King. Madonna, questa filosofia. No, c'è da aspettare dietro. Ok. E l'altra cosa... io non mi chiamo, sono gli altri che mi chiamano. No, sai cos'è? Esatto. Le vittorie di Riri gli è andato alla testa. Esatto. Come il potere, gli è andato alla testa. Altra cosa di interesse che era successa, però non l'avevo visto che era un King. Però avevano la counter in mano, il dado appesantito in mio favore, demoliti proprio. E altre cose di interesse che erano successe. Insieme a Ilia erano arrivati gli angeli e gli angeli corvi. I corvi, è vero. Che si erano diretti. Beh, sempre, sono sempre cose con le ali. Che si sono diretti verso gli elfi che erano presenti nella sala per portargli delle armi che non potevano portare qui dentro. E all'interno della rampa delle scale che avete usato voi per raggiungere qua, e a un certo punto avete sentito un rumore molto forte, come se una quantità immensa di piccoli esseri svolazzanti la stesse attraversando. I pipistrelli. Colombe della pace? Esatto. Quelle con le mandorle. Esatto, bravo. Ok, altre cose. Anche per te. Ha scritto che intra tonaglia dice Cristà. Tengo a sottolineare che sono sempre. Allora, altre cose. C'erano due progenie che sono venute incontro a voi per sbararvi la strada. E che si sono beccate il cono di sfortuna. E la zona interessata dal cono adesso è piena di statue di ghiaccio che comunque non ostacolano il cammino come se fossero persone viventi come lo erano prima. Il primo ad agire è Garrosh. Congratulazioni. Non lo so, raga, andiamo dritti su di lui. Sì. Sì, cioè nel senso... Dobbiamo uccidere lui. Sì, Radin, gli altri che se ne fottano, andiamo dritti là. Assolutamente. Allora carico... Dove sei tu? Dietro, no, molto lì. Dietro. Perché una lui cazzata, era lì, io sono andato su lui, ma poi lui è andato là. Vado dritto da strada. No! Tio svedese, lurido. Cazzo. Vabbè. Per un attimo pensavo dicessi a me, no? Ma poi mi sono reso conto che è Sala, non sta seguendo. E con il mio primo movimento arrivo lì, quindi non so se... Puoi sputargli, forse. Posso sputargli, se no posso tirargli un'accetta. Caricarlo la volta dopo. Da dove sei te è dietro un muro. Minchia. Chiaramente non, so, non è grosso così. Ma mi sembra, sembra che sporga. È, sì, chiaro, è ingrandito chiaramente. Esatto. Sta in un unico quadretto come voi. Vai sul muro. Eh sì, ma cosa faccio? Poi dopo il prossimo turno gli arrivi da sopra. Vabbè, allora faccio 35 no, piedi, cioè non vado in ira, sto lì, al prossimo turno mi incazzo e lo carico. Ma scusa, il figlio di nemici caricane uno a caso, giusto per avvicinarti. Andando dritto di 35 piedi finisci proprio davanti a una progenie. Allora carico quella, dai. Mm-hmm. Allora vado in ira e carico, cosa direbbe? Lo spreco, dici? Vabbè, tanto andare in ira ci vado, ci rimango, Delle due attacco. Quante ire ti rimangono? Due, compresa questa che agisco, che aziono. Quindi non ho capito. Più. Ah, quante ne hai usate? Sì. Ok. Faccio attacco incauto. Sì. Hai vantaggio. Esatto, uso la lancia ovviamente. Hai vantaggio a tutti gli attacchi, tra l'altro. 26. Cosa che non sapevo. Sì, 26. Per colpire, colpisci. Sì. Col primo sono qua. Tre. Quindi 8 danni. 8 basso. Il secondo faccio l'attacco extra dato dal caricamento ed è un 23 e sono 17 danni con questo e il terzo attacco faccio 17 a colpire, colpisce, ok, e sono 11 danni, 20 e sempre magico totale, sì sì. Ah, ti posso chiedere i PF, Giulio, come si è messo? Come la volta scorsa. Grazie, Giulio. Puoi chiederli. Esatto. Nei 93, scio. E ho già i... Temporanei. Temporanei li avevo già, per l'avanzo, è vero. Sono già compreso. Sì, li hai già persi. Ah, ok. No, per saperlo quando... deciderò il primo. Allora, 18 più 8... 26. Esatto. Attenzione. Quindi, questo era Garrosh. Ok. Gli elfi prendono le armi e cominciano a lanciare le frecce alle progenie che sbucano dai mezzo alle statue di ghiaccio. Senza farlo ci arrivi quel movimento, no? Cioè, arrivo lì secondo qua Ilia oblitera il povero padre Donavich, oramai una ombra dell'uomo che era, e aggira l'altare per andare da Irina, che è stranamente immobile e non dà segni di reagire agli stimoli esterni, nonostante rimanga ancora in piedi. Quindi è tipo il personaggio normale. in realtà Irina era molto fastidiosa. Quindi è tutto normale. Dalle tenebre, dall'aria stessa sembra che si materializzi la figura di un equino fiammeggiante di fianco a Radin. Lui... Esatto. Lui ci sale sopra e poi lo vedete cavalcare attraverso il muro verso l'esterno. Senza neanche salutare. Esatto. Ok. Ai lati della sala i vistani alleati di Strad sfoderano i loro coltellacci e si mettono ad affrontare gli elfi e i corvi, i loro alleati. Ah. Mi abbiamo sempre voluto bene i vistani. Comunque, guardate come Kat è riuscita a trasformare anche un combattimento in una descrizione. Se vuoi, mi metto a tirare di nuovo ogni dado. No, no, va bene, allora, descrivi pure. Grazie. Ok. Allora, che cosa succede? Abbiamo perso Salla. Era cangiato tutto. Ah sì? Ce ne eravamo accorti? C'era infatti silenzio da parte sua. Ma chi sta? Colpisco Sceo. A sua magnificenza, che il Conte Strad. Attenzione, attenzione. Ma non ci vede. Dietro un muro. Non può fare niente. Sì, ma la luce la vede. È vero, il fatto che dietro un muro la luce gli arriva lo stesso, sì. Cioè, tipo come se arrivasse dall'alto, sopra di lui o... Diciamo che dove non è riuscito ad arrivare in un punto in cui... È all'ombra. Non fosse illuminato, quindi la luce lo... come si dice? Lo irradia, la luce radiante. Sì, lo scotta. E muore. E poi... Mi sentirete dire che è il turno, lo sai. Vedete che se ne va. Gira l'angolo. Top. È perfetto, così. Rega, TPK l'avevano detto, basta. Adesso. No, dai. Dobbiamo inseguirlo, che... Race. Attacco quello di fianco ad Atanas, è ferito. Sono tutti all'ingresso del castello. Ha preso i danni del cono di freddo. Allora, attacco quello lì di fianco. Cioè quello di fianco ad Atanas. Questo qua. Sì. E un attimo che mi è crashato tutto anche Roll20. Aspetta che lo riapro. Hai un D4 in più ai danni? Tra l'altro sono tanti anni che non faccio un tiro sul mio personaggio, quindi non mi ricordo più che cazzo fa. Uso la spada di luce a due mani. Uh-huh. E... mi pare un 20, tu che dici? Quindi è critico. Critico raddoppia anche il furtivo. Sì, raddoppia anche il furtivo. Quindi sono... Quindi, e poi c'hai un D8 in più perché è un non morto. Allora, cominciamo con i due di... Ah no, ma non ho fatto 20. No, no, è un 2. Non è proprio la stessa cosa. Dici che un 20. Ah, no, lui ha contato 13. Il 20 scritto in alto, ma è roll 20. Mi pensava roll 20. Dici... No, è che ho tirato e sopra un 20, ah, e okay. Quindi mi vedevo il 20. 13. Davvero il 20, vabbè. Se vai su, allora, vai su, era scritto roll 20. Ah, quello prima. Esatto. La, 13. La loro classe armatura è 15. Vabbè, allora ho mancato. Direi. Ok, fai qualcosa con l'attuazione bonus? No, sto lì. Oh, yes. quindi questa era Race. Le progenie, quindi le progenie dove un questino stanno immerse nella luce, che sia dell'amuleto o che sia della spada del sole. All'inizio di ogni turno, 20 danni. Ogni turno, 20 che danni. Due luci sovrapposte non facciano 40. Beh, la scottatura, se è più forte, fa più male, però, in teoria. È come se fossero più vicini al sole. Cioè, prova. Chi è che si chiama Scutini? Non lo so. Che io me lo sono chiesto. Perché la party kill di ieri. Cioè, di ieri, dell'altra volta. Se mi cambia. Madonna, che lamentosi che siete oggi, comunque. Pensavo perché avevi vinto tutti i giochi ieri. Come ti chiami, Race? 20. Non sappiamo neanche più il nome del suo personaggio, addirittura. Baird. E tra l'altro sarà da qualche parte. È vero? Dov'è? Ah, chissà. Ci ucciderà lui tutti. Abbiamo perso, cioè in realtà era con noi, però a un certo punto è scomparso per semplicità. Dalla narrazione. Se lo siamo dimenticati. Esatto. Rega... I fan della serie se lo stanno chiedendo. Rega, qualcuno ha preso Pain. Atanas. Io attacco la progenie davanti a me. E faccio... Faccio 29, 27, 27. Colpito. Quindi... Questo è magico, questo è normale. Ah, poi un D4, un D4. Ma stai tirando da diveri o...? Da diveri. Che brutto che non si sente. Non so. No. È brutto anche che non possa fare rumore col sacchetto. Sì, è vero. Deve lanciare dei dadi parlanti. Non dico esatto. E quando finiti di rotolare dico 4. Bello sarebbe. No. Ci saranno per non vedenti. No? Sono 10, 11, 12, più 4, 16. 16 più 14, sono 30 danni magici. E sono 12 danni con l'altra, con la spada normale, però in realtà 3 di questi 12 danni sono radianti del mantello del crociato. Ok, quindi danni magici e radianti 30, sono 33 danni totale radianti magici bla bla bla e 9 normali. Ok. Ok. Ma le progenie non hanno agito? No, non ancora. Si sono solo beccati dei danni. Ok. Ok. La... Dove sono i miei dadi? Magari nel caso che li prenda. No, no, no. La progenie che è stata attaccata da Atanas prova a prendere in lotta Race. Bastardo, vi farò su di te. Vabbè, Atanas ha la forza di... A svantaggio, Fa il primo attacco. Io non ho ancora capito come funziona la prova di lotta. Ma loro, prova di lotta. Loro in realtà lo fanno con gli attacchi. Cioè, se ti colpiscono con gli artigli invece di farti danni, possono decidere di prenderti in lotta. Ah, okay. Abbiamo di nuovo il beacon di Strad, no? Beacon anti-Strad. Anti-Strad. Piccola abbiamo differenza. Anche quello di Strad. Ops. Un lapsus freudiano. Esatto. Col primo attacco fa 19 per colpire. Non mi colpisce. Non è vero, mi colpisce. Anche con lo svantaggio. Anche con lo svantaggio si è tirato alto. Col secondo, con lo svantaggio, fa solo 14. Mancato. Ok. Quindi il primo attacco, invece di farti danni, ti prende in lotta, CD per scappare, 13. E poi il secondo prova la stessa cosa con sfortuna, anche lui è svantaggio. Il primo attacco fa occia, anche questo sono 19 per colpire. Catta caudo. Vabbè, cosa fa? Colpisce? Sì, ti prende il lotto. Non è danno, vero? Se no, lui può decidere di non fare danno pur di prenderti il lotto. E prova a farlo col secondo attacco, che fa un misero 14. Ti colpisce? 14. Io ho 14 più 1 per la luce, quindi dipende se sono contro strada. La tua risposta qual è? Sì. Ma io voglio prendere il libro, non mi interessa di strada, però sembra che al momento sia contro strada. Va bene, allora non riesce a morderti. Ok, però quindi sono in lotta. Sì. E tocca a te. Ma non sono prono. No. Non sei grappolo, Marco, forse. Basta. Esatto. Se lanciassi una palla di fuoco contro Vez, prenderei 6 progeni. E scioglieresti le statue di ghiaccio. È vero, figo. Dai. Liberati. È proprio una buona idea, sai. Come mi libero, scusa? Non ho forza. Destrezza? Posso togliermi dalla lotta con la destrezza? Scusa, se l'obiettivo è total party kill, fallo. Oddio, è vero. In realtà, palla di fuoco. Rega, ma perché stiamo perdendo tutte queste energie? Cosa progedie? Se muore Vardistran, in realtà può cambiare il piano, rega. Cioè, ci è mostrato, ci abbiamo portato il nemico. Controllo se posso uscire con un Athletics dal grapple. Non mi ricordo. Con un anche. Scusa, con un Athletics o con Acrobatics? Ok, Acrobatics, allora faccio quello. Comunque, se aspetta. Ah, beh, è vero, perché a me probabilmente attaccheranno prima che io mi muovo. Ah, sì, sta vero. Faccio un Acrobatics ed è. Scusa. 11. Potevi risparmiare. La CD era 13. Ha più uno, okay. È vero. Salvezza. Sì, Non è un tiro salvezza. È una prova contrapposta. Allora, e questo era sfortuna. Al termine del turno di sfortuna, comunque comincio a pensare che Strad sia una pippa, cioè non è possibile che scappi tutte le volte. Ci vuole allungare l'agonia. Esatto. Strad compare alle spalle dal muro, alle spalle dell'amico Reis. Devo stare zitto, quindi è questo che mi stai dicendo. Allora, total party kill. Total party kill. Ci portiamo dietro Patka, così com'è, tipo. Ma quindi se spunta lì, Katta si brucia. Se spunta lì si brucerà nel suo turno. No, lui la non è il suo turno. No. Adesso non è il suo turno. Fuori gioco. È il turno alla fine del turno di sfortuna. Ma aspetta, quindi Cato, ho una domanda per te. Il tizio mi può prendere in lotta pur superando la mia immagine speculare o no? Ah, fammi leggere. Mirror image. Sì. Allora. Raggiro per chi? In ogni caso abbiamo fatto due gocce, mezz'ora. Mezz'ora? Qua è più facile che subiamo due. Attenti. Allora, quando ti colpiva devo tirare un D20 per vedere se attaccava te o un duplicato. Però il mondiale prossimo. Quindi se hai i duplicati devi fare 6 o più. Ok. Due mondiali di fila sono. Cioè, è bellissimo perché siamo spareggi, tipo... non passate gli spareggi. Cioè. Ma siamo tipo sesti rank UEFA e poi no, è due mondiali. Europeo non giocare i mondiali prima e dopo. Paoloso. Ok, Sal, dovevi tirare un dado da 20 e fare 6 o più. Dopo la Bulgaria non aveva voglia. Tirerò un dado da 20 e farò 8. Però, attenzione. A nulla, 8. Ok, sì, è tolto. Siamo ancora vivi. Ok, invece di prenderti in lotta, elimina una tua coppia. Ok, tolgo una coppia. Quante ne ho? 4? 3? Sono 3 di partenza. Ok, bene, meno male che ce l'hai ricordato. Quindi il nostro amico per punire la tua insolenza ti dà un ceffone, e anche lui ha svantaggio. Povero Strad di merda. Strad, cioè, è comparso qui da là. Sì. Ottimo, mezzo. Finalmente i nostri compagni attaccheranno l'obiettivo principale senza poter scappare. 16 per colpire. Ah. 17. Calculation. Bene. Atanas. No, aspetta, Ardistran, che cazzo dico? Atanas ha già agito. Sta già me? Sì. Però forse ci hai scambiato il turno, perché io mi ricordo che ero molto indietro. No, ma io sono ultimo, mi sa, come al solito. Tu hai agito prima di sfortuna. No, siete uno. Ah, è giusto, ok. Avete fatto tutti 8 in iniziativa? Ah, sì, è vero. Potete agire nell'ordine che volete. Che Strad è apparso lì, no? Ma poi di default è Ma mi sa che te lo diciamo. Ehi, c'è Strad! Sì, te lo dico. Bestemmia. Esatto. Allora, io vado verso quella direzione lì, a quant'è da me? Sto correndo tipo da un lato all'altro. Tipo... Tu quanto fai? 30 piedi? Sì. Arrivi a 40 dalle progenie e poi lui è a 10 dietro il muro. Quindi... Allora, vabbè, faccio intanto i miei 30 verso di lui. Ok. Ma evitando la progenie? Sì, ma quindi, tanto non c'è la cosa. No, non c'è la cosa del di fianco qua, mi sa. Se tu gli passi di fianco, sì. Vabbè, ok. Cioè, se tu esci dalle loro forse aree minacciate, sì. Forse c'è un compromesso, esatto, tipo tra tipo l'angolo di là e l'angolo dell'altro lato opposto. Vabbè, sì, ma lo vedo qua. Riesci ad arrivare qua? No, perché qua dietro c'è un muretto. Vabbè, non si vede. Ah, fai così, guarda. Mi fai tanto. Se io faccio così. Puoi fare qualcosa a distanza. Magari su una delle progenie. No. però posso avvicinarmi ulteriormente con l'altro mio movimento e fare come bonus il coso, come si chiama? Il giuramento di nemicizia, vow of enmity. Sì. Allora arrivi qui lì perché sono... davanti ci sono le progenie. Io lo chiamerei spesso abusiano. Grazie. Lì sono per molto vederlo lontano, devi arrivare qua. E non posso andare un po'. A parte questo stato, qui ci sono le due progenie in mezzo alla, al passaggio. Vabbè, mi metto lì vicino loro comunque, dai. Ah, ok. Qui va bene? Sì, tanto non prendo l'attacco di opportunità. No? Va bene, va bene. Ok. Valdistra. Cadrai! Ok. I corvi cominciano a prendere le loro forme corvine per combattere contro i vistani e le altre progenie che ci sono nella stanza. Garrosh. Garrosh. Ah, scusami. Al termine del turno di Vardistan, Strada ritorna nel muro. Che cancro. Beh, ah, vabbè, io non so dove è in effetti. Però ho visto che è andato via da dove l'ho visto prima. Non è che sono sentito... non si brucia se fa sta cazzata. Ah, ho sentito che loro hanno detto che era là. Quindi... No, deve iniziare il turno. Prima in teoria se li presi. Cioè, ha buggato il gioco, Katta, mi vuoi dire? Se lui al termine del suo del turno di un avversario usa la sua azione leggendaria per muoversi e può attraversare le pareti, quindi, quando arriva il suo turno può non trovarsi. Quindi abbiamo sbagliato, dobbiamo stare due da una parte e due dall'altra, cioè una la fiamma da una quindi, parte e cosa quindi io dovrei essere dovrei avere più di 8 in intelligenza per capire che sfondando quella porta al centro lui è sempre alla luce. Ma tu non sai che è lì. Appunto, dico dovrei avere molto più di 8 in intelligenza, ma molto sei isolato. Vabbè, ma sei in posizione perfetta per attaccarlo quando apparirà da te. Io intanto continuo a picchiare la progenie che ho addosso. Ok. Anche per tenermi lì. Continuo con attacco incauto. Vai. Minchia. 14. Ah, di 1. Prendo o non prendo? 15 hanno le progenie. Secondo attacco. Ok, prendo 17 di dado. E gli faccio a sto punto solo... 7, 5, 12 danni. 12. Ok. Allora. Gli elfi continuano a combattere contro i vistani. Ilia. Ilia arriva a... come dire... prova a interagire con Irina che è immobile e in stato catatonico. Nel momento in cui rimuove il velo rosso che nascondeva la sua testa e il suo volto, praticamente le parti del suo corpo cominciano a staccarsi. E aspetta, le parti del corpo di chi? Di Irina. Okay. Riconoscete nelle varie parti i segni tu Garrosh che sei lì che gli altri sono dall'altra parte della stanza. Era finta Irina. Era Vasilka o quello che ne rimane. E questa cosa in realtà non è poi così troppo sconvolgente, nel senso che classico trucchetto di inganno da parte del conte, ma Garrosh noti che i pezzi che si staccano dal corpo di lei, alcuni bagliori di colore rosso e per qualche motivo vedete il vostro amico angelico che rimane come immobile, rapito da questa visione. Oh, tutto noi dobbiamo fare, ma è una volta. Sì, esatto. Adesso gli taglio la gola, se rimane immobile io mi libero. Impareggiamo allora i conti dello scontro a Kresk. Dal muro esterno dietro Sfortuna compare al galoppo di Bucefalo il nostro amico Radin. Vabbè. Vabbè, che cacchio, adesso non cambia niente. Allora. Ok. Dove cazzo sta? Eccoci qua. Allora. È che Giorginio ha battuto il rigore, ma fortunatamente poi ne hanno battuti degli altri durante l'Europeo. No, il problema è chi è il Ok, di vincere qualcosa magari da sfavoriti, bene, però tipo se c'è tipo la partita che devi vincere, ok, se no sei fuori, cioè, la partita che devi vincere. Nel momento in cui Radin arriva, le voci delle anime delle persone che ha ucciso, che svolazzano sempre intorno a lui, si sentono sempre più forte, e il loro coro maledetto arriva a trapanarvi addirittura la vostra mente. Fate un tiro salvezza, il coro esatto, e fate un tiro salvezza sulla saggezza. Abbiamo il più 3 di Vardistan. Avete il più 3 di Vardistan e il più 1 della luce. Anch'io bravo, il più 3 di no. Direi di no. Eccolo il coro, è arrivato. No, non ci avevo pensato. No, sulla saggezza. 20 più... Ho fatto 20 di danno. Proprio sulla saggezza, riga, volete. Ma tu non sei lì. Ah, non prendi anche... Sulla... È quello. Sulla saggezza? Anche... Ah, pensavo fosse così. Sulla tiro salvezza sulla saggezza. Un 28. Ho capito, promesso tutto. Diciamo non so c'è la storia del no, rega. Gli ho fatto 21. So, so siete carichissimi. Carichissimo, ho tirato 4 prima. Porca io credo di aver fatto 11. Madonna, Vez, che censura. No, sono stato io che non tanto me l'ascolto allora, dopo per addormentarmi. È una malattia te. Chi ha fallito il tiro a salvezza prende 25 danni, la che metà gioia. Chi l'ha superato. Ah, un accidente a lui. Quindi chi è che l'ha fallito? Io. 25 danni. La CD era 16. Ah, vabbè. Ancora un punto vita temporaneo per adesso. 12 a 0. E a tal proposito, quindi, fa un attacco su Sfortuna. Potrebbe mancarti. 17. Ti colpisce? L'hai passato, Vez? Sì. Sì. Ho fatto tipo 20 di danni. Sì, mi colpisce, ma uso una Cutting Words, so, quindi provo ad abbassargli il tiro. Ok, di quanto lo abbassi? Di 4. Quindi fa 13. Quindi non mi colpisce. Non ti colpisce. Secondo attacco. Che sfiga. Fatto 12. E il terzo lo doveva fare su Atanas. Atanas, 18 ti colpisce? No, perché ho il più 1 della luce. Oh. Ok, Radin, dopo un turno di mosche, passa la palla. I Vistani continuano a combattere contro e i loro amici elfi e corvi, e il signore in persona, conte e padrone di questo castello, ricompare da questa parte. È il suo turno. È il suo turno. Arriva fin qui. Qui. Il suo odio che traspare dai suoi occhi è tutto concentrato sul povero Vardistran, riconoscendo il fatto che è l'unico che gli dà addosso. Ah no, scusa. No, che sta approfanato l'armatura del suo amato Strad, fratello. Vai, Strad. C'è un cartello con scritto Suca stronzo. Vai, Strad. Vai, svantaggio, Strad. Sì, a svantaggio. Parli con la Bulgaria. Sì, quella tanto che oh, qua... cambia che basta un gol. Guarda qua il gol. A momenti non fa. Vabbè, ci sta a bilanciare. Quindi questo è. Se si toglie, è anche dentro quello. 18. 18 ti manca, mi sa. Assolutamente sì. 18. Ma ricordo lo svantaggio. Esatto, in questo caso, anche in questo caso lo svantaggio fa il suo. E quindi ti manca con entrambi gli attacchi. Quindi dovete fare almeno due gol. Però non sei contato. Sì, ma finita. Con la Svizzera non deve subire. Vorrei farne uno e sperare che la Bulgaria, senza tiri in porta fino ad ora, provi a fare gol. Vabbè, riga. Mi sa che anche. Vabbè, pensa però all'aspetto positivo. Che i giocatori delle squadre di Serie A si riposano. Assolutamente, le squadre sì. Italiane saranno favoritissime. Cosa cazzo in succede? Certo. Sì, no, hai ragione. La luce che arrivava dalle vetrate comincia ad affievolirsi. Si sente nell'aria il rumore di migliaia di battiti di ali che si avvicinano. Esatto. Race. Attacco Strad. È il tuo momento. Olè. È registrato, sì. Dai, grande. Rischi di attacco Strad, è registrato. Sì. Tutto, finalmente riusciamo a colpirlo. Sì, è vero. 25. Colpito. Sei sicuri che è lui? Sì. Allora, un D8 in più, no? Perché è un non morto. Perché è un non morto. Vedi, Vez, hai anche un... va vicino e tocca. Hai sempre il mio D4 aggiuntivo. Quindi sono 3, 6, vabbè, fa vincere anche 9. No, no, è vero però, a questo punto. Più 18, dai. 27 e 32 danni. 32. Perché loro non sanno che lo sta facendo. Oh, scusami, ho appena fatto 32 danni al tuo amico. Vogliamo che sia messo agli atti. Ok. E con l'azione bonus gli dico questa cosa offende gravemente il conte. In tutta risposta ritorna nel muro senza provocare attacchi di opportunità. Basta. Che caghetta, cazzo. Si è cagato sotto il caghetta. Lui praticamente quindi può fare tipo 26 azioni a round, così la cosa. Vabbè, quello è perché è la quinta edizione. Vabbè, è l'ordine leggendario. Le progenie agiscono. Quella che sta sbaciucchiando Fortuna. Però dei gran 20 danni, Ah sì, le progenie si prendono i danni. Doppia quindi... luce, doppia luce! Cos'è? Un anime che esatto. Catapulta infernale. Esatto. Potere del sole. Bardistan usa. Scherzando, il progenie sono già prese 40 danni da luce. Radiante. Quelle infatti contro Garrosh e contro Race stanno abbastanza male. Quella contro Sfortuna sta un po' meglio. E nonostante questo, tutto questo bagliore gli ha fatto venire fame. Quindi prova a dare un morsicottino a Sfortuna. Chissà che si incula. No, no, perché ha fatto soltanto 13. L'altro è un fumble, quindi non fa niente. Ma quindi, rega, la morale è che abbiamo sucato tutta la campagna per poi stuprarli quest'ultimo scontro. Vabbè, adesso vediamo. Poi essere stuprati. Hai invertito. Come riusciamo a toccarli? Stiamo smazzolando di brutto. E questa era la progenie contro Sfortuna. Se avessimo pasta che figura, magari avremmo qualche scelta. Io paradossalmente potrei fare Aura of Vitality. No, Vez, fai danni. Secca le. Beh, che gli dici? Vez, tu non hai incantesimi, hai solo smite. Magari c'è un atto di bontà del master. Un certo punto. Possiamo usare Inspiration per farci curare da Patke? Questo è un compromesso. Ma quello sotto, esatto, lì è. Cosa? Radin. Sauron. Sauron. Ah, no, no. Sauron. Quello è Atanas. Tutta la campagna che lui gira così. Che ogni tanto dice: sì. Non so se è buono o malvagio. No, è sempre ossessionato da questo anello. No, l'immagine non è Sauron, comunque è il re della caccia selvaccia di The Witcher 3. Ah, ok. Sì, è vero. Ok, è vero. Allora l'altra progenie prova a vendicare il suo padrone attaccando Race, ma di ancora nuovo con svantaggio. Beh, questo però è un 18. Cosa? 18 mi colpisce, devo tirare un divento del tradimento, esatto. Fino a un attimo fa era con lui. 4 no, non è abbastanza. 4 non è abbastanza. Ma ti devo usare l'altra o il lot? No, prende me. Ah, ok, prende me. Okay. Ha trovato l'originale. Che rottura di cazzo. Prova a darti un bacetto. Un dado è un 20, ma l'altro è un 2. Quindi ti manca. Ce la giocheremo. Arriva una progenie da dietro Vardistra. 11 a 13, forse 12. E un'altra si avvicina. Vardistran, anche lei prova a prenderti. Lei chi? Una progenie di quelle che era lì dietro. Col primo attacco ti manca. Infatti ti ha mancato. Il secondo è un 17, anche quello ti manca. Bellissimo. Esatto, vero. Atanas. Cosa faccio? Abbatto la progenie o attacco Radin? Ma se abbatti la progenie... Ma secondo me le progenie muoiono con la luce al prossimo giro. Ah, ok, può essere. Vai su Radin. Okay. Quella direi sì, la mia no. Vabbè, l'importante è che schiatti. Prima o poi schiattano con la luce, Radin no. Attacco Radin, allora. Ciao Radin. This is just me. E sono... Ah, che palle. 24, 27, 12. 12 lo manca. Già che ci sono Action Surge, faccio altri due attacchi. Volevo tenerli per strad, ma Radin is fine too. Esatto. E sono 23 e 25 per colpire. Colpito, quindi sono 4 di 6 e non basta. 3 gol. 5, 6, esatto. 10. Il 3-0 nessuno ha più tirato in porta. Vabbè, l'altra sì. Partita proprio hanno fermato. Sì, 10. Sì. Tu il tuo dono, Race, 12. Ti dava la protezione. No, aspetta, 26. Atanas. il tuo dono ti dava la protezione dal mentale come in Mind Blank? Sì. Allora non hai beccato i danni di Radin. Radin merda. Hai capito. Io invece gli faccio per ora 35, ma adesso arriva anche l'altra spada. 35, 36, 37, 44. Io mi volto tipo, tipo disperato, tipo il palo. 48 danni. 48. Radin fu ferito. Allora, al termine del turno di Atanas, ha detto che andiamo gli spareggi da imbattuti. Sì. Aspetta la fine della partita. Va bene, dai. Il problema è che sono discreta. Ma non è una questione di essere discrete in realtà, eh. Cioè, delle due è meglio avere una squadra che ha paura. Meglio incontrare un Portogallo che magari ha paura. Ok. Di... la Svezia, cioè, sfortuna. Io mi faccio un Misty Step qua. Puoi arrivare anche qua. Dopo non vorrei essere nei conflitti. Ma perché non prepari un'azione tipo quando appare Strada gli spari? Perché ha un PF. Sono tra in corpo a corpo, eccetera. Cosa gli sparo? Svantaggio, minacciato. No, Eldritch Blast. A svantaggio, però. A svantaggio. Metto qui e faccio due Eldritch Blast contro Rani. Cioè, devi fare questa stessa cosa e preparare, no? No. Perché adesso tira senza svantaggio. Blu. 15 e 27. Se prepara un'azione, tira con svantaggio. 26. Se rimane lì dove sì, perché è in corpo a corpo. No, 15 colpisce? No, 15 non colpisce. 10 danni. 10 danni. E questo era sfortuna. Che ho 4-0 4-0 della Svizzera. Non sarebbe cambiato niente. Vardistran. No. 3 gol in 10 secondi. E io posso colpire Radin, no? Perché ci sono le progenie in mezzo. Ci sono le progenie in mezzo. Avresti bisogno di prenderti un attacco d'opportunità per farlo. Anche comunque due, forse. Voglio dire, è colpa di Mancini che all'intervista del post partita ha detto: beh, la Bulgaria potrebbe vincere. Ma vabbè, a parte quello, no, in realtà secondo me è che proprio ha trasudato paura e in effetti sì. E vabbè, tiriamo su questa progenie, dai. 29 a colpire. Accidenti, colpito. Manca. 8, 7, 15 danni. Quella magari un po'. Allora, più quale stai attaccando tu? Come questa qua. Una molto male, quella di Race. La su Race 2, sì, ne ha prese. 15 danni hai detto? Sì, vai sull'altra allora. Ma ah, finisci la scusa. Ecco, allora, la mia. Vabbè, ma il prossimo turno lei inizia e scompare, rega. Lo so, ma mi dai un turno in più a me. Vabbè, allora va bene. Che non devo liberarmi. Sì, sì, va bene. E la uccidi. E suppongo di non poter attaccare con l'altro Radin, però... O sì? Sì, in realtà. Sì. Prenderesti giusto un attacchino da quella dietro di te. Ma sti cazzi. Vabbè, svantaggio, vai. Dai. Ma manca 10 volte, hanno svantaggio. Adesso 20-20. Doppio critico. Cosa fai? Te la rischi? No, non la rischio. Colpisco l'altra progenie. Conservativo. Vedi, tirato malissimo, infatti. Ho fatto bene. Ho fatto 13 a colpire. Colpito. Scherzo. Che bastardo. Volevo dire mancato, ma ho sbagliato parola. Sì. Volevo dire ho vinto, ma... Vai, va bene. Garrosh. Io sono sempre da tutt'altra parte. Facci vedere dov'è Garrosh. Dov'è Garrosh? È nei nostri cuori, che domanda. La progenie lì è quasi morta, hai detto. La progenie lì stava abbastanza male, sì. Allora sti cazzi, carico una... Non so, torno, vado verso di loro. Prendo un attacco d'opportunità e corro da loro. Carico... Tipo ok. La progenie più vicina alla T-Mac. Porta. Ho 20, eh. Ah, però ha vantaggio, perché io avevo usato attacco in cauto, non so se vale ancora. Annulla lo svantaggio. Ah, ok. E posso caricare quella, ci sto. Ok. Vai, sempre attacco in cauto. Stai tranquillo, perché io sono, devo stare a 50 kg. E fantastico. Cosa dici? 1 e 2 con i miei dadi. No, non lo so. Era questo che ho fatto 10 a colpire, quindi direi di no. Non faccio l'attacco bene. Extra. Vabbè, il 2 quant'era però per colpire? 10, hanno 15, quindi no. Col secondo colpisco, che è quello extra che fa più danni, tra l'altro è andato bene. A Dani è contento, guarda, sto piangendo lui. 14. 14 danni e con l'ultimo attacco non colpisco. Ho fatto 2 e 3. 14 danni con sì. Che guerriero che abbiamo, infatti è un barbaro, non è un guerriero, è un barbaro. È 10 a 0, al termine del turno di Garrosh quindi niente, abbiamo preso neanche saranno i nostri avversari. Portogallo, Svezia, come funziona sorteggio? Ci sono dei gironcini e giochi una semifinale, una finale, partite secche. Strad spunta è tutto parete. Un altro campionato. Sì, no, sono fatti a merda. Vabbè, sì. Cioè, o le vinci tutte o sei fuori. Cioè, che roba è? No, vabbè, non è vero. Beh, devi cercare di essere nelle migliori 13 di Europa. Evidentemente, non ho capito. Cioè... Ma un girone da 6-7 non deve passare solo la. Cioè, beh, so. Allora c'è anche la Svizzera. Ha fatto un girone perfetto. Spade tutto. Però noi siamo mancati nelle partite contro la Svizzera, che per dire gli europei li abbiamo schiantati. Hai ragione. Sì, hanno fatto con scontri diretti. Siamo mancati lì. Alla fine le altre abbiamo fatto due pareggini. Di fatto siamo fuori per un rigore sbagliato di Giorgini. Anzi, due. Uno all'andata e uno al ritorno. Vabbè, non è solo quello. Beh, hai detto che siamo mancati in quelle partite dove Giorgini ha sbagliato i due rigori. Però... Sai com'è? Insomma. A livello, diciamo, a livello pratico, sì, perché è una questione di episodi. Però forse è mancato anche qualcosina di più, se vuoi, a livello aggregato. Straden riutilizza il suo azione bonus per scatenare l'urlo dei dannati. Quindi soltanto Race e Vardistran fanno un tiro a salvezza. Straden. Un tiro a salvezza. Sulla saggezza. Solo io e Straden. Race. E perché gli altri no? Perché la mente di Giulio è bianca. 16. Cosa vuol dire? uno dei miei patroni mi protegge. Savnok l'imperscutra. Sì, vero, Dani sta per piangere, hai ragione. La CD è 16. Allora. Godo. 10 più 4 della saggezza più 3, 17 più della luce, 18. Prendete soltanto 10 danni. Sono colpiti. A quanti ho punti ferita? Ho 5, tipo. Ne hai ancora? No. Io ho adesso solo un bustino da 5. No. Ne hai 50. Si è messi bene. Ancora vabbè, sei messo quasi male. Come me, Vezzino, 64. Sì, ma tu non sei mai stato colpito della carriera. Adesso, è la prima volta. Adesso. Ok. Lui e la sua cavalcatura... scompaiono nel piano Race. Etereo. Cosa? Ma tu l'hai passato Race? Sì. E non hai evasion tu? Solo per destrezza? No, solo la destrezza. Credo, sì. Ma no, come? Se n'è andato? Comunque anche Radin si beccava. Aspetta, no? Radin è un elfo. Non è un bambino. Aspetta, la cavalcatura sì, però. Lo becco anch'io, Katta. Che cosa? Questa prova perché mi sono avvicinato. Sei no, sei troppo lontano tu. Solo quelli lì intorno. Ah, ok. La mia mente è bianca. E la cavalcatura non è un non morto, è un fiend. È un diavolo. E non ha comunque, anche se fosse un non morto, non aveva comunque la sensibilità alla luce. Agli occhi del sole la cavalcatura. Oh, comunque esatto. Tutti i leoni, i nostri nemici, ragazzi. Cazzo, stai scappando tutti. Ok. Ma lì, il vostro amico Conte... Ah, è dentro l'area. Inizia il suo turno lì, sì. I pipistrelli intorno fanno ombra. È dentro l'area. Non ancora. Ma non si è spostato alla fine del turno di Ran? Perché lo può fare alla fine del turno? Vabbè, ha preso danni, dai, su un'altra canora. Ma perché voleva iniziare lì? Perché allora aspetta, collo di morte. Qualcosa del genere. Dove sono i suoi incantesimi? Ci siamo. Puoi fare un'anteprima, introdurre quest'ultima scena della fine. No, abbiamo la musica dark. No. Questo è uno in agonia, dai, però. Sì, quella, se quella secca era che scriviamo un qualcosa di più forte. Sì, ci vuole. La Maro Succi. Allora, sì, direi che è più appropriato. Sì, dalle sue mangia questo dita. Orologio, Osh. Bevi questo orologio, Osh. Posso bere del cioccolato almeno, perché è proprio l'orologio. No. Dalle sue dita cominciano a crearsi stalattiti di ghiaccio e fiocchi di neve, mentre l'aria intorno a sé diventa sempre più gelida. Un amaro dolce, è chiaro. Un cono di ghiaccio vi investe. Fate un tiro a salvezza sulla costituzione. Ma come? Porca puttana, ma niente sulla destrezza, ma io vi odio. Oh, non ha preso un danno per tutta la campagna. Adesso non ci abituate, vero? 17. Cani. 17. 10. A chi vuole fare? Perché avete qua che canticchia per la stanza, ma non ha seguito. Anche lui deve tirare. E investe 1, 2, 3, 4, 5, tutti voi, sì. Tutti? Cosa intendi con tutti? Tutti. Ah, Garrosh, Reis, Vardis, Transfortuna e Atanas. Anche io ho il più 3 di Reis per tutti. La Costituzione ho il più 1 e il più 3 di Vardis, non giusto? 21. 19. Anzi no, 6. Aspetta, ho detto una cazzata. 21, 25... 27 credo. Non ho capito per cosa, però mi sono un attimo perso. Cono di freddo di un cono di ghiaccio. Il cono di ghiaccio ha fatto. Costituzione o direi più 2 e la luce. Ah, anche la progenie. Però. Anche la progenie. Anzi le progenie. 3. Anche loro. Stavolta è andata male. Ah, 6 più 3 10 la CD è 10. Allora Inspiration. Se vuoi usarla fai pure, è consigliata abbastanza. Vai, sì. Proviamo. Ci sta, l'hai usata all'inizio. Oh, 20 di danno. Popparamo. ora bisogna fare i discorsi all'interno del match per avere un altro scontro. Sì, è questo il potere della luce. Fai tipo un discorso alle progenie, magari funziona. Tipo io sono lì tipo, no, poi dico, luce, Dio della luce, aiutami. Allora, la CT era 18. La CT era 18. Che inculata. Chi ha fallito 19. Ha preso 43 danni. Allora, e la Madonna. E l'ha superata la metà. Cazzo, comunque la metà. Vediamoci. Quindi 21. Tu hai la metà. Ah no, giusto. Tu Marco quanti ne hai presi? 43. Sì, ma porca puttana. Va giù, danno no, fa? Salute. Pat, no, dove sei? Niente. Ilia, dove sei? Qualcuno ci curi? Dai, tu l'hai passato, dai, scelo, sì. Sì. Sì, ho tirato 6, ma per fortuna ho più 13. Anch'io ho passato alla fine. Sì. Va bene? No, benissimo. Ma me lo ricordo, mi sa che l'avevi già fatto. Sì, già. Ne avevo quello okay. Zucchero. Ok. Vai ad oltre Mark. Ah, ecco. E, dai, seriamente però Pat che lì parte le gang. Però io ho una domanda tecnica, Cattabriga. Non c'è un pezzettino di muro tra me e Strad? Sì, ma il cono va dietro gli angoli. Eh sì, che cazzo è un cono ricerca? Come anche le palle di fuoco. Questo è da barra, eh. Cosa vuol dire va dietro gli carta angoli? Carta un po' barata, ma va bene lo stesso. Ma hai un piede di là dal cioè un piede, esatto. Ti prende il sì. Piede di conseguenza sì, no. Piuttosto tre progenie dovrebbero piuttosto prendersi. Tre progenie se le pigliano. Tanto, se non l'avevi passato Sala ti rispondeva che avevi vantaggio, era il massimo che avrebbe fatto, sbaglio? Io non l'ho passato però allora è dagli vantaggio almeno dai sul serio Katta, dagli vantaggio dietro un muro non lo so da lì se le regole di D&D non mi colpisce però poi vedete voi che cazzo è sta lì anche lo strada è lì quel bastardo. Dai dagli vantaggio Katta, vantaggio o usa un'inspiration non ce l'ho come ce l'hai l'hai data a me no allora, ti do la mia inspiration. Ma quindi tu stai scusa, quanto c'è da me a quella merda in linea retta? Posso dare la mia inspiration a Katta? Ah, sa, 30 no, piedi. Katta, direi che non ne ha bisogno. Sì, apparentemente tu sei dietro il muro, in effetti. Sì. Anche se non apparentemente, realmente sono dietro il muro. Però prende lo stesso, cioè il cono fa oltre il muro, passa il muro. Le aree, in teoria, vanno a girare gli ostacoli. Ma che, ma dove? Se parte... Boh, ho questo ricordo di una descrizione di un incantesimo allora anche... che lo diceva. Allora, se va... allora anche quando lui va dietro un muro, però prende la luce. Scusa, ma dov'è la cosa della copertura? Leggiamo. Sì, esatto. Allora cioè, che prende la luce dietro un muro. Scusa, dov'è la regola della copertura? Cover range. No, è che cioè, se Strad si protegge dietro un muro, anche noi. Lui però si protegge dietro un muro chiuso, cioè chiuso in un'altra stanza. Capiamo così. Però... Sì, la palla di fuoco vado dietro a una colonna e me la prendo in faccia lo stesso. Infatti la palla di fuoco te la prendi in faccia lo stesso dietro una colonna. No, se è dietro la colonna dall'altra parte non te la prendi. No, ti ricordi che nel salone principale del castello ci riparavamo dietro una colonna per le palle di fuoco? Io lo facevo, quindi... E te le prendevi lo stesso? No. No che non te le prendi, scusami, che discorso è? No, mi mettevo apposta dietro la colonna per non prenderlo. Dipende come è fatto in teoria l'incantesimo. Cioè, se è un cono, alla fine cioè, come in realtà sì, allora sì. Se... Cioè il cono è come un fascio di proiettili. Penso che in realtà sia anche un po' una distrazione, nel senso, banalmente ci sono alcuni incantesimi che sono, che ne so, tipo quelli che fanno uscire i tentacoli dalla terra, allora lì anche, vanno anche dietro il... Sì, sì, ma non è un'area quella, però. No. Esatto. Però quello è attacco singolo. Sì. Cioè, questo parte da strada. Alcuni ad area. Per cui questo parte da strada. Per dire la luce prima. Adesso strada era dietro il muro. Però non è che potessi evitare la luce. Secondo me. Allora. Esatto. No, però è diverso. La total luce. Cover. Cioè, lui non ti potrebbe sparare con tipo i magic missile. Ma un incantesimo d'aria ti prende. Cioè, se è d'aria, tu puoi essere incluso dentro l'area di effetto dell'incantesimo. Scusa, allora è che anche la luce allora, è astratta. Infatti, prima quando era l'alo colpiva. Anche dietro a un muro completo, se l'area è chiusa. No, no, perché è un'altra stanza, un'altra sezione, okay. Un'altra cosa. Anche il mio è un'altra sezione, che cazzo allora. Vuol dire? No, è aperto, sei dentro l'area d'effetto. Sì, ma rega, cioè, se, allora, se io prendo un lanciafiamme e sparo col lanciafiamme, io sono dietro allora, all'angolo, non nella vita fuoco. Reale sì, in dungeon non funziona così, però. Allora, ma dove? Da, io dalla terza 5, sì. Non c'è il lanciafiamme. Nella quinta no, però. nella quinta no. Ascoltami, nelle regole per la copertura, cosa che tu, a cui tu hai, hai diritto in questo caso perché sei almeno mezzo coperto, ti danno un bonus alla classe armatura. Ti danno un bonus alla classe armatura e i tiri salvezza sulla destrezza. Sì, ma questo? Sì, quello che però io mi ricordavo era la frase che c'è scritta nella descrizione di Palla di Fuoco, che dice il fuoco si sparge anche intorno agli angoli, che però non c'è in effetti in Cono di Freddo. Quindi, scusa, uno potrebbe dove dire... Dove l'hai letta questa cosa? Nella descrizione di Palla di Fuoco. Palla di Fuoco, che è Fireball. C'è una frase cioè dice, che dice... The Fire Spreads Around Corners. Però aspetta, la Palla di Fuoco e io mi ricordavo questa frase qua. In un punto e si allargasse. Ok, quindi ci sta che si allarga sul pavimento ovunque vada, ma questo è un cono, come se fosse un proiettile, ha una traiettoria, sbatte contro l'ostacolo. Cioè, visivamente no, questo è... No, è una, no, è un'area d'effetto, è come se esatto. Nell'area del cono cresca del ghiaccio da ovunque. Ok, allora sì. Allora non, è, non è che ti spara del ghiaccio. Okay. No, però se, perché essendo un cono sembrava... Che comunque non mi colpisce, però. Non è come... Se, gli sparasse, se Marco tentasse di sparargli Eldritch Blast... Salva sarebbe in total cover e non potrebbe essere targettato. In realtà da dove è fortuna non lo prenderebbe, quindi no, lo prenderebbe perché è un'area d'effetto, non è, non è un missile, non è un attacco. Quindi tutte le cose a cono però... sono considerate in questo modo. Tutte le cose ad aria, cioè Catta lo può considerare come vuole, ma nel regolamento non c'è scritto che se total cover. Anzi, c'è scritto no, che nel regolamento c'è scritto perché no, in realtà nel regolamento c'è scritto alcune spell possono superare la total cover e in quelle spell è specificato nella spell. Sì. Per cui da regolamento in teoria c'è scritto, però poi io nel senso allora provo a cercare un consiglio da chi si è già posto questo dilemma. Oppure scegli tu, visto che sei il master. Vabbè, c'è cata, scritto, alcuni incantesimi che... possono raggiungere il bersaglio includendolo nell'area d'effetto dell'incantesimo. Esatto, e infatti se guardi quegli incantesimi c'è scritto il fuoco supera esempio, le pareti. Secondo me devi andare a devi scegliere tu, Catta, però in base alla tipologia di incantesimo. Se lui è tipo che soffia così, ci sta che non vada oltre il coso. Se invece è tipo cresce il ghiaccio, allora esatto, sì. Esatto. Però ha ragione anche Sala, cioè se vuoi essere pignolo sulle regole ci dovrebbe essere scritto supera la copertura e non c'è scritto. Quindi dipende come la vuole interpretare, se vuole essere pignolo sulla regola. Però d'altra parte la copertura ti dà un bonus alla destrezza, non alla costituzione. Aspetta, fammi leggere qualcosa, vero, così mi faccio un'idea. Vuol dire che in quella zona viene talmente freddo che ti fa male. Ma infatti ci comunque è interpretabile. Fammi vedere se c'è qualche parere illuminante. Come prima la luce contro strada ti irradia luce, quindi per certo. Lui è il calore che gli dà fastidio, cioè la luce che sì, gli dà fastidio. Lui può dire il muro diventa talmente freddo che anche Salla soffre. Vediamo. Cioè, se era destrezza vuol dire che era una cosa che ti colpiva, allora sì. La eviti. No, beh, uno potrebbe dire magari tipo è freddo anche cioè intorno e quindi in realtà vieni colpito lo stesso dal freddo. Secondo me sì, è così, perché è cono di freddo sulla costituzione, quindi tu sei è probabile ferito che da sia quanto così. È freddo. È probabile che sia così. Sì, sì, sì. Quindi sì, ci può stare. Cioè, se non è visto come un proiettile, dai, va bene, una cosa dai, che rende la zona... Va bene, Catta, non starà a perdere due ore. Sì, dai, quindi così sei sicuro. Vabbè, ci metto due minuti in realtà. Sono le mie cose preferite queste esatto peggio comunque sadismo questa cosa in Norvegia la Norvegia è fuori è una delle cose passare come primo hai ragione addirittura vediamo se qualcuno se l'ho già preso c'è la Macedonia Sì, aspetta, se ne beccato un girone. Vediamo se provai total cover. Il blocco hanno adesso, immagino. Ok. Cioè, noi abbiamo era un girone con squadre che non sono riuscite mai a battere. Anche perché ce l'ho anche Atanas. Fantastico. Ok, in questo caso no, volevo avere un po' una panoramica di quello che si dice in giro, perché magari qualcuno diceva: ah no, guarda, dovete guardare qui, ma non, invece ho trovato uno che dice: fai un po' come ti pare, quindi la cosa rimane esattamente. Stiamo dicendo noi da mezz'ora. E vabbè, ma tipo non... blog uno che gli dice esatto, come ti... allora, non allora, mi fido. Allora va bene. È tipo la prima riga esatto. Del manuale del master. No, fai un po' come ti pare quando hai un dubbio. È bellissimo Katta, tipo quando tipo gli dici: no, ma guarda, è così, così. No. Poi tipo dici: vabbè, Katta, sei tu il master, dici tu. No, aspetta, perché dici forse dice la gente, vediamo i cose. No, sì, in questo caso direi che ignora la copertura. Perché se lo interpreti come va bene, fatto che la quindi zona Sala is down. No, quasi però. Allora, che ti lamenti? Dai, rega. qualcuno si cura. Allora, che cazzo stava succedendo? Ah, sì, anche il fatto che non abbia perso le mie mirror image da questo attacco fa ridere come cosa. Non le hai perse no, perché tu ce le hai. Le perdi solo con un attacco. Le perdi solo con un attacco, ma non ha senso. Però vabbè, almeno è specificato. Però. Vabbè, cioè, si vedono allora. Le tue altre immagini che fanno. Brrr. Esatto. Vabbè, esatto. Sta, anche in Pokémon Go era. Allora, i pipistrelli avanzano. Volano fino a qua. Scrivi ad Arti di collegarsi 5 minuti. Quindi solo di apparire, okay. Anche dormire non ci interessa. Questa cosa sarà in teoria dalle 11 alle 11 e mezza è ancora vivo, ancora sveglio, è vivo. Potevamo prenotarci sul suo sito. Prenotarci. Basta. Dai, chiamiamoci sul serio, raga. È l'unica. Questa cosa sarà. Vabbè, i pipistrelli occupano la... sono degli sciami. No, ho sbagliato. Ho fatto troppo avanti, troppe volte avanti e indietro. Ok. What the fuck? Adesso scommetti che gli fanno... sciamano all'interno della struttura. Race, cosa fai? Ah, tipo, questo è stato congelato, qui c'è una statua. Non c'è indietro 45 14, ma immagino che non lo rifaccio fortuna 5 immagino che i pipistrelli facciano danno, no, gli faranno ombra a lui, così non becca la luce sicuro. Per adesso sta vi hanno, come dire, vi stanno svolazzando addosso, non hanno ancora attaccato. Vabbè, allora io vado su strada a sto punto. Carica. Dove sei qua? C'è una progenie però lì. Ah no, le progenie sono morte con... Ah sì, c'è una progenie qui. Vabbè, uso ma la bonus. Ma tu puoi usare la bonus action, sì. Esatto. 11-22 totale. Non sono morte le progenie col freddo? E quelle due hanno subito... sono morte quelle che erano qua dentro. Infatti vedi che c'è la statua. Queste due hanno subito danni ma sono ancora vive. 17 danni. Allora, 17 danni. Muore. Hai fatto un D8 in più? Sì. Anche un D4 in più. Anche un D4. Ah no, aspetta, no, il D4 sei troppo lontano. Sì, troppo lontano. Entro 30 piedi. 17. Pezza, no, la copertura non vale per lui, non vale neanche per me. C'è entro 30 piedi. Mi sa di boh. Bardi strano. No, Atanas. No, 35, 40. Peccato. Ok. Ma tengo la spada in avanti. La spada no, un po' infatti, più avanti. Ci arrivo. 97. Io potrò un po' fare perché sono a cazzo. 104. Poi. Dai, andrà giù. Beh, becca l'attacco di opportunità. Andrà giù con la luce. Ma la luce non dà fastidio ai pipistrelli. No. Anzi, ci stanno da Dio. ci stanno da Dio. Oh, finalmente un po' di luce. Esatto, tutto sto buio in sto castello del merda. A parte che fa male a chiunque della Barovia, la luce del sole, ci bruciano all'istante, non l'hanno mai vista. Secondo me. Termine del turno di Strad. Al termine di turno di Race, Strad sparisce in questa direzione. Attacco di opportunità? No, non lo provoca. Io vedo dove va stavolta. Cazzo. Mi passa davanti. Vedo. Vedi che attraversa questo muro. Ok, sfondo la porta. Le progenie, una ti attacca Garrosh. Inizia il turno, prendono 20 danni. Prendono 20 sì, danni. Tutte, anche quelle dietro. Anche quelle dietro. Anche quelle dietro. Allora, quindi sono Garrosh, questa 79, ancora viva. Questa muore, che era quella di prima. Questa appunto, mezzo passo. È che può leggere una pergamena di cura ferite di massa? Che abbiamo trovato in un inventario in fondo. Che abbiamo nell'inventario. Penso io, credo, no? No. Ah no, ma io non lancio però. Ma leggere forse tutti, il problema è se fa... Deve superare la prova di qualcosa. Esatto. Cioè, come funziona? Non mi ricordo. Vai, Giulio, scopri. Leggere una pergamena. Allora, sì, potrebbe essere carino nel caso. Dici? Quella lì vicino alla porta, dimmi che muore, che mi farebbe comodo. No. Va verso di te. E anche quella giù, vero? Ho 20, ma ho usato attacco in caldo. Aspetta che mi devo segnare tutti sti... questa è tua, questa è sua, questa ormai l'abbia resa qui, poi queste due vanno su di Race, ok, e niente, basta uno che ce l'abbia nella lista degli incantesimi. La sua classe di livello più alto. Io sono in quella qualità urbana. Mi sa che è di livello troppo alto. Quindi Garrosh, la prima non ti fa niente. Hai usato vantaggio, vero? Ho usato svantaggio. No. Ah, no, hai ragione. Esatto. Quindi la seconda ti colpisce con entrambi. Quindi il primo è il famoso artiglio che non ti fa danni ma ti prende in lotta. Il secondo ti prova a dare un assaggino, quindi fa un di 6 più 3 di danni perforanti con i suoi denti, 4 danni, e 2 di 6 danni necrotici. I danni necrotici sono... Merda, 2 danni. Ho fatto 3-1 di fila. Cioè, quando ho detto merda ho pensato come sei. Marco, quindi... tu hai incantesimi da bardo, vero? Un po'. Allora sei tu che la devi lanciare. Ma non ho quell'incantesimo che serve. Non è importante. Non è importante. Basta che sei andato nella tua classe. Quindi ti becchi 2 danni necrotici e il tuo massimo dei PF scende di 2. Ma che bello! Si aggiungono a quello di Bayern. Esatto. Poi Vardistran, anche l'altro ti manca. E poi Race. Primo Il primo fa cos'è? 12 più 6 ti colpisce. Quindi col aspetta, primo attacco ti prendi il lot. Aspetta. 7 mancato. Ok, quindi perdi una. Devi fare 8 quando ne hai due. Allora lo manca, allora mi ha preso. Quindi prova a darti un morsicottino. Giulio fallisce. Il secondo invece ti prova a no. Oh, un graffietto riesce a dartelo. Aspetta. Riesce a dartelo. Aspetta, 15. Devi fare 8 più. Prende l'immagine. Perdi un'immagine. E adesso è e 10. Questo è adesso è boh, vabbè, ci guardo io. 11. Comunque 11, sì. Allora, la deve lanciare Marco e deve fare una prova per lanciarla con CD 15. Come Atanas si chiama in inglese? Curve Wounds, Mass Curve Wounds, una roba del genere. Ma ascolta Giulio, ci fai un recap? Mass Curve Wounds. Ci fai un recap dei punti ferita? Sì, pochi. Race 21, io 59, Varistran 29, Garrosh 76, e Sfortuna 22. E io ho segnato 21. Siamo in media, ognuno ha la propria metà. Sbaglio. 29. No, più in basso. Un terzo. Solo io sono un terzo. Un terzo. Sì. Solo io sono a metà. E io sono sopra la metà e tu sei alla metà, Garrosh. A chi tocca? Ad Atanas. Allora, sta a me, quindi. Vabbè, io cosa... non c'è nessuno. C'è la cosa da me. Ci sono allora, queste simpatiche progenie. Vado a sfortuna, gli do la pergamena e poi attacco una progenia. Sì. Beh, quella che c'è lì, di fianco a Vardistan, così fai tutto in un unico quadretto. Sì. Anche perché i pipistrelli per ora non ci stanno attaccando. Non ti hanno ancora attaccato. Ma poi cioè... ignoriamoli finché loro ci ignorano. Sì. Adesso hanno lo sciame. Oh, due critici. Oh. 19 di dado. E l'altro ha fatto 16. Colpisce. Quindi sono 2, 3. Direi che è morto. 4. 7. Direi che qualcuno riesce a uccidere quella che mi ha grappolato. 10, 11, 12, 26. Andare alla porta della strada. Che più che altro facendo così lui alla fine se... aggrappolato vuol dire che non posso fare nulla, ok, movimento 0 e basta, ok. Sono 29 danni magici barra radianti barra quello che è e... ma se faccio una prova di forza per caricare la porta con la progenie addosso e 14 normali. Ok. Potrebbe essere figo. Cosa vuoi fare? Una prova di forza per caricare la porta con la progenie addosso. E perché la porta e non il muro? Perché la porta è dietro la strada. È ancora viva quella progenie? Ma non lo sai. Eh sì, l'ho visto andare lì. Sì, quella progenie è ancora viva. Era messa meglio rispetto alle altre. Quindi... ha preso i danni del cono. Ho preso sfortuna. I miei danni, ha preso tutti quelli di questi turni della luce. Sì. Allora, vedo che è necessario che io salvi la situazione. Dovrebbe l'ironia. L'ironia. Palla di fuoco. Potete usare ancora il mio medaglione. Ci sta, raga. Tiro su la pergamena. Tiro della spellcasting ability. Di 15. Hai un'inspiration da usare? potresti bloccare le progenie, se ricordo. No, non uso l'inspiration. Tiro 2. Quanto devo usare il mio carisma anche? La spellcasting ability, quindi carisma più la proficiency. Quindi 2 più 8, 10. E uso... Se mi apparisse... This one. Tan tan tan. Ability check, you can use this feature to add a D10. Beh, carino. Posso sfondare la porta intanto così. Faccio 10, quindi 20 in totale. Sì. Riesci nel tuo intento di fare palla di fuoco? Sì. Sono quindi 3 di 8 più la, l'ability modifier. In una sfera di 30 piedi da te dovremmo entrarci tutti. Ok, quindi 13 tutti. Più ci siamo già tutti, direi. Più 4, 17. 17. Ci siamo già tutti, direi. Sì. 17 punti vita temporanei. 17. No, sono che temporanei? No, veri, sono, non sono... Scusa, sono non temporanei. Sì, sì. No, sono effettivamente temporanei. e poi mi sposto un po'. 17 solo. Tutto è temporaneo in questo momento. Mi sposto qua. Sono 3 di 8. Meglio che un calcio nel chiulo. Esatto. Un po' più vicino a Vardistan, così. Ok. Vardistan. La progenie è ancora viva lì. Sì. Vabbè, la... Sarà morendo, però. Sarà morendo. Sì, deve aver preso più di 100 danni, cazzo. Prova a tirargli un colpo. Adesso guardo se abbiamo altre cose. Scopri i misteri. Colpito. Ho sprecati. 19 danni. Muore. Io posso muovermi e farmi. Sono una ricetta di olio sharpness che avrei dovuto usare. Sì. Puoi usare il secondo attacco su un altro bersaglio entro il tuo movimento. E allora su Sheo. No, cosa? Sì, sì, vai su Sheo. Su quella di Sheo. Sì, sì, vai su quella di Sheo. Quella che mi ha aggrappolato. Sì. Cosa fa la pozione dell'invulnerabilità? Chi lo sa? 23 prova a berla. 23 colpire, colpito. Ti ritiro il 2. Vai. Siamo così disperati che stai cercando tutto l'inventario. 11 esatto. Danni. Muore. Dai. Sì. Grande vezzo. Bravo vezzino. Questo è molto contro le mie politiche. Spesso sono vicino a Sheo adesso. Hai liberato un tuo compagno? Sì, sì. No, di stare vicino a Capra. No, sprecare le nostre cose. Ok, prima... Prima che tu ti allontani, ti do una pozione dell'invulnerabilità, Vez. Sì. Hai una pozione dell'invulnerabilità. Ti dice, tieni, bevi questo, così a casa. E tu ti devi fidare. Sì, sarebbe rischioso, però posso berla. Quando la bevi per un minuto hai resistenza a tutti i tipi di danni. Tipo, devi dargliela prima. Continuo a leggere un po' l'inventario, ma che magari qui c'è scritto veleno registrato. Aiuto, ma io mi ricordo abbiamo una boccetta d'olio sharpness che però vabbè, ah, quello bisogna usarlo, ah, tipo che bello. Che io mi ricordo quando trovate queste cose, cos'è sta merda, ma cacciala via. Io me lo ricordo, le accumuliamo tutte, esatto, e non le usate. Adesso mai adesso le stiamo usando, sì. Quando hai un PF tieni, questa ti dà resistenza, tanto siamo qua che girovaghiamo, uno fa lo sciame e vabbè, non ci siamo, come al solito non ci siamo organizzati prima dello scontro, cioè. Infatti sta andando benissimo. Quando si è mosso, sì. Strano. Cioè io per 10 turni alla fine del turno di Vardistran. Ma perché? No, la dimezzati. Dimezzati. La vera domanda è, l'hai visto muoversi, Sceo? Non credo. Beh, lo vedo là in fondo adesso, però. Adesso lo vedi là in fondo. Ah, vabbè. Sì, i pipistrelli non rendono la cosa semplice, ma si vede che c'è qualcuno. Io però sono un po' più su, ricordo, quindi la mia area va un po' più su. No, è vero. La tua area è centrata su di te. Esatto, quindi se mi muovi su, di fianco a Garrosh, dove sono? Qui. Vedi che lo prende? Esattamente, esattamente. Perché ti stai notando da me? Vedi che lo prende? Lo prende o non lo prende? Non lo prende. Si vede chiaramente... che è nel quadretto più là. Allora no, ok, c'è un ingrandimento. Tieni conto che è meno grosso. Ti ingrandisco quanto vuoi e si vede che tocca di... guarda quell'angolino, Lo vedo, sì, quell'angolino, ma... non è così grosso, strano, si è bruciato l'arbitro, lo va a vedere, esatto, ed è dentro. Chiamiamola VAR. Com'era Garrosh? Allora, quanto distante? Portami con me, con te. Così sarà. C'è un attaccato, mi sa. Hai mai lanciato? Genio! Lancio Vezzo! Genio! Lancio Vezzo! Genio! Vabbè, potrei lanciare il medaglione. Ma scusa, non hai una progenie attaccata? Sì, ce l'ha, ma sti cazzi. Ma sti cazzi, lancio Vezzo. Fai una prova di forza. Sì, cioè, lancio nel senso gli do uno spintone perché vada qualche metro in là. No, proprio tipo giavellotto. Ancora meglio, ok. Quindi tiro di forza, athletics. Athletics. 19. Bellissimo. Tipo, ci guardiamo. Tipo, con la mano. Fallo. Sì, no, è bellissimo. È perfetto. Catapulta infernale. Vabbè, facciamo molti più danni così che facendo qualsiasi altra cosa. Come funziona i gemelli danni da caduta? Danni da caduta sono la caduta verticale. Quindi... quanto mi porta in là? Farà uno show. Ma in realtà, scusa, aspetta un attimo. Passo indietro. Mi lancia di 30 piedi. Aspetta, Katta, invece che fatto tirarlo. 19 di dado. Ah no, ho 19 totale. Aspetta, invece che tirarlo, posso prenderlo e spostarmi? Ha senso? Sì. Sì, però puoi prenderlo e spostarti. Ah, prendi l'attacco. Chi se ne frega, però io faccio 35 piedi, quindi andiamo più in là. Sì, poi vai della metà del movimento, ma lo puoi portare con te. Cavalca, non so, insomma, quanto andrai in là, quindi 35. Sì, 35. Cavalca, allora, con dai. Me. Sì, ti prendo tipo in braccio e ti porti. Vabbè, o in spalla. Abbiamo anche una... abbiamo anche una pergamina di quello per voi, padron Frodo. Posso portare voi? Esattamente. Avete una pergamina di Revify. Ah, Revify. Se qualcuno di noi muore, possiamo portarlo in vita entro un minuto. Forse. Se abbiamo voluto. Cioè, Vezza. Ma Vezza può tra gli incantesimi. No. Ma così non lo spreca e usa i suoi incantesimi per smite. Nella lista sì, Revify. Beh, non ce l'ho tra i miei. 35. Io credo che pochissimo, rega. Revify sarà di terzo. No. È di terzo. È di terzo. No, rega, non ce l'ho. Arriva. Comunque qua. La puoi lanciare tu l'incantesimo con la pergamena. Trasporta Vardistran. Questa è la scena culmine di questa abbiamo due fiaschette di acqua santa a testa, tra l'altro forse anche di più perché abbiamo il nostro coso. Sta perfetto, assolutamente. E la progenie ti manca, dai, grande Sceo. Fagli al meme per la prossima volta. Beh, sparamelo già che lo metto nelle storie. Devo farlo, Vezza, non è che è una roba di due secondi. Devo mettere le facce. Dici così senza rimodificare le facce, no? No, vabbè. Però non si capisce dopo. ricomparerà di addosso sfortuna. Non posso portare il medaglione, ma posso portare. Sì, ma le facce nel senso mettere lo sta bene, lascio quello, ci sta. Signor Sfortuna, mi faccia un tiro salvezza sulla saggezza. Senza il più 3. Che è stato trascinato via da Garbush. Hai imposto una storia. 13. Poi farà un post, intanto faccio la storia. 13. Un altro po'? Ma sì, dai. 15. Sono 15 danni. Di che tipo? Psichici. Sei ancora vivo? Per il momento. Ok. Quindi Garrosh, questo è tutta colpa tua. Danni stitici. Danni stitici. 17 ti colpisce? Sì, ma posso provare a fare. No, vabbè, lo prendo. Dice, è tutta colpa tua, mentre si allontanava ancora più lontano dallo scontro, sì, sì, isolandosi da tutti. Maledetto! Ti colpisce anche con gli altri due attacchi, sei sicuro di non voler provare a evitare almeno il terzo? Vabbè. Beh, tanto tolgo un di 6. Più 6. Tolgo 5, quindi... Togli 5, quindi va a 12. Ok. Quindi ti colpisce soltanto con due attacchi per un totale di 20 danni. Però... Tutta colpa tua! E quindi è sotto? Sì. No, 3. Come 3? Mi sono curato anch'io. Prima. Ah, ti sei curato anche tu, scusa, mi sono ero persa sta cosa. Dettagli. Scusa, stavo cercando nell'inventario, avevo la testa dentro lo zaino. Cioè. Ho 3 punti feriti. Strad prende 20 danni dalla luce. Dai, yeah. Brucia. Dai, yeah, potrò così fare più male io con 2 Eldritch Blast e sopravvivevo più turni. Se solo non fossi andato nell'altra mappa. Da solo. Ero vicino a Vardistan, esatto, che ha finito il movimento. Sei nell'altra parte della mappa, che cazzo dici? Con gli occhi iniettati di odio lancia le sue maledizioni contro il profanatore della tomba di suo fratello. Ancora, ancora, ero per cazzo. Che palle. Strada, posso ancora, sono ancora in tempo per cambiare fazione. Salvami tu. Questa volta dalle sue dita escono le fiamme dell'inferno e una palla di fuoco si abbatte. Oh, grazie a Dio, destrezza. Esatto. Sì, cazzo. Non la tira neanche addosso a Race, proprio la evita. La testa di cazzo di destrezza, no, buono. Però hai i tuoi bonus e tiri salvezza. Quindi Garrosh e Vardistran fanno un tiro salvezza sulla destrezza. Dai. E è un effetto che vedo, quindi ho vantaggio? Hai vantaggio. Ma no, quindi bruci i pipistrelli, che stronzo. Tutti i pipistrelli in quest'area vengono annichiliti all'istante. 20 più che 6 bastardo fa 26. Oh. Dovremmo dire ai pipistrelli passare con noi. Esatto. È un 15 il mio. Ok. Dove cazzo sta? Qui. Non immagino che non basta. Ah, la CD è sempre 18. Hai bevuto la pozione di Giulio, vero? Sì. Ah, bene. Sono palla di fuoco massimizzata di Evo. Adesso sei come Super Mario quando prende la stellina, cioè non proprio, perché... non proprio, eccoci qua. 26 danni a Vardistran divisi 2, quindi per capire che avuto la pozione, tutti i danni di mezzo, sì, resistenza a tutti i danni, tutti i danni. Se vuoi te lo rileggo comunque, sì. E per un invece... minuto dopo che hai bevuto tu hai resistenza a tutti i danni. Garrosh aveva superato il tiro salvezza. Dual damage. Penso se avessi bevuto prima, Vez. Che roba. Saresti full praticamente. Ma ora ho altri 9 turni però così. Forse. Se ci arrivi. Non ci arrivo. Ok. 13 danni. 13 danni. Sarei arrivato con... sì. Ma magari Ilia ci farà cura. Questa cosa irrita grandemente i pipistrelli che cominciano a attaccare qualsiasi cosa trovino nel loro percorso. Attaccheranno quelli che ha colpito. Adesso faccio il discorso dei pipistrelli. Amici della notte, per troppo tempo siete stati sottomessi. Questo è il discorso dei pipistrelli. Allora, ecolocazione. Miei fratelli notturni. Ah, ok, hanno dei punteggi diversi a seconda di quanti cosi hanno. Ok, quindi ognuno di voi viene morso da un pipistrello. Noi vediamo se vi riesce a colpire. Non siamo in zona noi. Si muovono chiaramente. Sì, ma quindi anche strada radi nelle progenie. Quindi. No. Sì, ma mi sa che strada non prende danni. Vabbè. No, noi non siamo già in zona. Quanto è il raggio della palla di fuoco? Si vede che si è liberi. Non è 30. 20. 20? Allora, 20. Poco. Ok. Quindi. Garrosh. Vieni colpito da un pipistrellino. 7 danni. Che di mezzi. Perché sei ancora in ira, vero? Esatto. Sì. Guardi, strano, ti manca. Sì, giusto. Race, ti colpisce. Giusto. Aspetta. 11 o più? Sì, mi colpisce. Giusto. Beh, forse è meglio così. 4 danni. Non lo so. Guarda. Perforanti. Giusto. Atanas. 19, ti colpisce? Un culo, 19, sì. Sono 5 danni. E basta, sfortuna non è nella stanza. E questi erano i pipistrelli. Race. Io mi devo liberare o posso attaccare lo stesso quello? Tu puoi attaccarlo lo stesso. No, aspetta, mi sa che faccio una roba diversa. Provo a liberarmi, che è un'azione, no? Sì. Ok, provo a liberarmi. Destrezza. No, è prova contrapposta, sì. Acrobatics puoi usare contro. Acrobatics. No, una CD fissa, scusa. Era CD... mi sa che ho fallito. Avrei fatto 11. CD 13. No, 13. Ho fatto 11. Sei rimasto grappolato. Con la... vabbè. Hai altre cose a cui pensare? No, aspetta, forse guardo se ho un oggetto, ma non penso. Hai la bacchetta. Allora, intanto le progenie attaccano qualcosa. Intanto prendo un danni, quindi dov'è Race? Ha preso tipo 80 danni solo dalla luce. Cioè. E quelle là sono già morte. Quindi loro vanno a... non so, secondo voi le progenie sono immuni alla paura? Alla paura? No. Perché non hanno immunità. Allora sono la cornamusa quella che fa spaventare. Ah, è vero. Ma no, un'azione, non posso farla se ho fatto... No, allora niente. Questa va di fronte a Garrosh e prova ad assalirlo. Lo manca. Quelli di fronte a Race, anche loro con il loro svantaggio, lo manca. Lo manca. Non ho colpito con nulla. Quest'ultimo contro Atanas. Questo va anche da 60. 17. Delle progenie che non fanno nulla e che prendono 20 danni, io ricordo. E prendono 20 danni. Li hanno presi padron danni. Bardistan. Per la loro influenza. Atanas. Sano al termine del turno di Race, il caro conte fa blip, blip. Atanas. Attacco Radin. Attacchi Radin. Prendi un attacco d'opportunità? Sì. Per svantaggio. Niente, certo. Ti manca. Allora. Radin. Testa armatura 18. Ok, un attacco manco, per fortuna è un attacco con la spada. Vabbè, con lui però chi se ne frega. Non cambia niente. Esatto, purtroppo. Purtroppo nessun critico. Sono 12, 26, 27, 31 danni. Ah però. È ferito e questo è Ratana. Sai altre cose? No, ma non era già ferito anche prima? Sì, era ferito anche prima. Sfortuna, cosa fai? Cosa è stato? Disingaggia. Spreco la mia azione disingaggiando. O Misty Step se ce l'hai ancora. Ma allora con l'H. Ce l'ho ancora volendo. Allora fai Misty Step, ti allontani e spari a Radin. No, secondo me ci vuole tipo... Troppo mi sa che è l'unica opzione che ho. Di qua o di qua? In alto o in basso? Sì, però ci sta tipo... dentro... Quando lo stanzone è pieno di pipistrelli. Quando i tuoi PG. Ma fai lì dalle scale, sì. Cioè... All'inizio delle scale, tipo qua, vicino a Pact. Pact. Esatto. Dietro a Pact. No, tipo, che so. Da copertura. Adesso dico che quando lui fa le robe, tipo che per lui va alto e noi no, non so, bisogna trovare un po' di... 9-17. 17 manca. A 18. Niente. Ah no, potresti fare tipo quando i giocatori non credono ai, Bardistran, ai crit, cosa fai? Lanci dietro lo schermo. Allora, in strada non si vede. Neanche i leocorni. Allora, una curiosità. Hai una progenie di fronte a voi. Vabbè. Tipo obbligato. No. Hai anche una di fianco su di me. Sì, però... Cioè, io posso preparare un'azione o no? Non capisco. Certo. Che azione vuoi preparare? Che se appariva lui, volevo sparargli il simbolo per provare a paralizzarlo. Certo. Usi la tua azione e prepari così l'azione quando appare Strad. Sì, deve essere a 30 piedi da me, però... Sì, tu dici, quando entra a para 30 piedi da me, utilizzo. Provo a sprecare così il turno, ma sì, dai. Proviamo. Allora, quindi, questo è ancora, sì, il quinto. Quindi, prepara, azione. Per cui... I corvi continuano a combattere... E inizia il sesto turno. Garrosh. Al tuo ennesimo critico, tipo qualcosa. Bravo. Hai una progenie di fronte e un paladino sulle spalle. Garrosh. Hai ragione, scusa, non ti volevo disturbare. Allora, ho perso tipo l'ultimo turno, vi chiedo scusa, ma era vabbè, importante. Sei, non ti preoccupare, c'hai questa progenie qua e io sono lì che tipo sono uso Vardistran come mazza e piccola progenie. Va bene. No, scherzo, attacco la progenie però. E uso sempre attacco incauto. Sì. 25, quindi il primo colpisce e sono 11 danni. 11 danni. Immagino di non aver avuto possibilità di caricarla, quindi tiro normalmente. Mm. 21, sono altri 10 danni. Ok. Comunque vorrei molto farti ferito. Notare che io non ho ancora ucciso nessuno con la lancia per prendere i PF temporanei. Ah, è vero. Cioè. È vero. Ok. Trick. Mm. Trick. Radin. Radin attacca con la scimitarra Atanas. Usa i suoi tre attacchi per provare a non fare schifo. Allora, con uno ti manca. Con uno fa 27 e con l'altro fa un critico. No, ma fa un culo. Tanto posso anche vedere. Quindi sono alla fine della fiera. No, non è la stessa cosa, ma vabbè, fa tira questi dadini. Fa 12. Ecco appunto. 11 più 12. Sono 21 danni. 11, 21, 23 danni. Ecco, diciamo che il meme di Sheo è arrivato giusto in tempo. Esatto, tagliente. Stavo pensando a quello. Non dovevo dare la pozione a sì, era stato particolarmente generoso da parte tua, me lo ricorderò anche questo potrebbe di usarlo perché era una pozione velenosa. Sono un demiurgo semplice dopo il minuto che ti dà invulnerabilità. Sono demiurgo semplice, vogliono chiudere la sessione, la campagna in due sessioni e apro una e apro uno scenario per 20 episodi. Dai, e questo era Radin. Dai, fuori, dai. Dopodiché anche lui ritorna nel piano etereo. Dai, no. No. Non ci sta. Ok. È l'anime. Cioè, siamo lì che stiamo facendo un uno contro uno e se ne va. Oh. Dai, che non lo sa cosa voglio fare, non lo sa. Oh. Allora, ci arriva, quanto lui sta? 60, eh sì, 60. Eh sì. È sul cavallo, Radin. Sì. È il cavallo che fa avanti e indietro da. Quindi devo ammazzare il cavallo. Perfetto. Ma ormai Radin è morto, quindi non trovare finire da Giulio. Da Giulio. No, no. Ci sta a finire la campagna ammazzando il cavallo. Sì, il maiale va giù. Sì, ma non così giù. Plup. Strada compare dietro a Sfortuna. Salve. Cazzo, viene da Sfortuna. Ma si muove così tanto, dannazione. Sfortuna gli ti dice: vieni con me se vuoi vivere. Ecco, posto. Che bastardo. Beh, offerta allettante, cosa. Ma in realtà la mia vita è insignificante, io cerco un artefatto. Ti dirò dove potrai trovarlo. Ok. Molto bene. E poi ci sono i pipistrellini che continuano a mordervi le carni. Garrosh, non ti fanno niente. Vardistran, ti mordono. 21? Esattamente 21. 6 danni. Dimezzati però. Comunque esatto. Fa male lo stesso. Beh, sono... sono 3. Va bene. E poi chi manca? Race. Da un punto di vista psicologico. Quindi sì. Race 16 ti colpisce? No, 17. Allora niente. E Atanas è fuori dalla stanza. E questi erano i pipistrelli. Race, appunto. Riprovo a fare come prima, provo a liberarmi e andarmene. 17, stavolta mi libero. Ti liberi. E vado dietro al culo di Bardistran. Blip. Oh, questo è un pipistrello. No. No. È stata un'idea del cazzo. Questo era Race. Al termine del turno di Race, Strad prende per la mano Sfortuna e lo porta su per la scala. Lo porta dietro al muro, se lui non ci passa, lo ammazza così. Ci tengo. No, non passa dietro al muro. Ok. Questo era la sua azione leggendaria. Prende per mano Sfortuna. Allora, qui ci sono, mi sa, un po' di progenie. Puoi dire addio però al beacon del cazzo, direi. Non è mai stato particolarmente utile. Ma... Allora, direi che... Ah, questa qui è ancora viva. Race, questa invece non può essere ancora viva, mi sa. Allora, la progenie che era da Garrosh è morta. No, queste altre tre stanno molto male, ma comunque una proverà ad attaccare Atanas. E col primo ti colpisce, quindi lo svantaggio. Sì, nonostante lo svantaggio, ce l'ha fatta lo stesso. Vabbè, dai, l'ultimo suo atto di gloria. No, cioè, Radin è scappato sul più bello. Allora fa 5 danni taglienti con il primo attacco e ti manca col secondo. Questi altri due no, che cosa faccio qui? Plup. Inseguono Race. Che cazzo. Il primo prova ad attaccarti, manca. Il secondo manca. Ma che palle. Preferivi ti colpissero Atanas e sfondo la progenie. Prego. Tu l'hai vista la scena di Sfortuna? Sì, sì. Infatti dopo, se uccido la progenie, vado su. No. Dove cazzo si va di lì? 16, 18, 28. Però ci devi dire qualcosa se vuoi che ti seguiamo. Sì, sì, 16, anche 16. Ragazza stanno. Sì, anche 16. Che poi sbaglio meno. Perché ho sempre il più uno. Sempre 20 i danni comunque. Sì, sono presi. 5, 6, 7. Quanti cazzo ne sono presi? 200 ormai. 11. 13, 27 muore. Ok, allora non faccio anche gli altri danni, tanto niente. E poi dico Strad ha preso Sfortuna, ha salito le scale ed è, sta salendo le scale. Ok. E poi ti sposti però. E poi vabbè, dai, facciamo, lo seguo da solo. Vai. Vai. Seguite. Vabbè, puoi farlo con calma. Vai. Puoi farlo con senza andare all in. Beh, in realtà sapete che più tempo lui sta nelle tenebre, vabbè, io ho fatto sì lui no, sta nelle tenebre più rigenera. Ah vabbè, ma fanculo, chi se ne frega. Insomma, tanto abbiamo fatto tipo 10 danni. In realtà no, perché comunque le due volte 20 se li ha presi, più i tuoi 30, tante danni. Allora, Sfortuna, Il vampiro ti porta in alto, su per le scale, spiegandoti che era riuscito a... Esatto. Era riuscito a contattare il tuo padrone con molte fatiche e con molte... e con molte interferenze da parte delle forze oscure che impediscono il viaggio e i collegamenti extraplanari da questo posto. Gli ha detto che ti ha mandato qui alla ricerca di un libro degli incantesimi, uno tra i più potenti che siano mai esistiti nel multiverso. Beh, si è dimenticato di dirmi questo dettaglio. L'ha scoperto solo dopo che tu sei arrivato in queste terre. E da lì poi, come ben sai, il collegamento era impossibile. Non era sicuro di questo, ma ha avuto conferma. Qualche anno fa un potente mago ha osato sfidarmi. Non so che fine abbia fatto, ma a questo punto penso che sia ancora vivo. Si nasconde da qualche parte per i monti a nord. È un mago un po' folle, diresti? Beh, quando l'ho affrontato è stato uno degli avversari più... Thundermark. No, stavo pensando a quello che era sull'albero che lanciava fulmini. Sì, è lui. È stato uno degli avversari più formidabili che io avessi mai affrontato. Aveva una padronanza della magia come non se n'era mai viste da tanti secoli, ma la morte, questo tipo di... ha sottovalutato la mera forza del vampiro più antico. Così cadde dalle altezze del pilastro di Ravenloft fino alle profondità nebbiose le profondità del nebbiose del fiume che scorre alle pendici del pilastro di Barovia. E noi stiamo salendo un pilastro del... No, l'intero castello sta sopra un pilastro, è quello che gli dà il nome. E, se mi aiuterai ti porterò da lui. Ma a me non serve trovarlo, a me serve portare il libro dal mio patrono. Una volta che l'avrei trovato. E Stefano potrei... filosofia. Sì, esatto. Sono lì che chiacchierano. Un tè? Oh, sì, sai. Cioè, cosa mi serve trovarlo se poi muoio? Diciamo che potresti avere un modo per recuperare quello che cerchi. Ah, ecco, dai, digli di sì e poi tradiscilo, cioè. E non trovo più... Come l'ha fatto tutti, tra l'altro. Ecco, le mappe sono qua. Beh, allora, se mi prestate il vostro formidabile destriero ancora una volta... Mi dirigo subito, immediatamente. Prima dovrei fare una cosetta per me. E vedi di farla bene, altrimenti il nostro patto potrebbe saltare. C'è già uno che mi dice, vedi farla bene. Wither, K18. Dico... Ok, hai trovato qualcosa, Kat? Nelle cuffie? Sì, esatto. Un orecchio. Una qualcosa di oscuro e dimenticato da secoli. Troppo a fondo hanno scavato. Troppo a fondo hanno scavato i nani. Allora. Vabbè. Ok. Ma ha finito di interpretare Macbeth al piano di sopra? Sì. Essere o non essere? Vediamo che cosa fanno. Era sì, era lo so, era tutto un omelette. Vediamo che cosa fanno gli altri. Cos'è Apple TV che adesso fa il film di Macbeth? Sì. Al prossimo anno. Cioè esce nel 2021. Bardistran. Il primo. Bardistran cosa? Ah, il mio turno. Tocca a te. Wow. Se vuoi puoi passare. Bardistran, scelgo te. Non posso più passare perché Ray ha portato le progenie. Vabbè, le attacco, dai. Prego. Allora, 25 a colpire. Il tiro? Sì. Vabbè, 12 danni. Mm-hmm. Presumo che sia ancora lì. Aspetta. No, è morta. Allora vado sull'altra, 20 al colpire. Colpito. E questi sono 16 danni. Muore. Quello che dovevi fare tu per prendere me punti. Me ne lasciate uccidere una, porca troia, per i punti temporanei. Vedi che non ho fatto male a portare le progenie lì. Va bene, 30 piedi. Infatti, fammi un recap, salvo mi mando. Allora è arrivato Strad e ha detto a Sfortuna: vieni, parliamo un po'. E lui: certo, come no, e sono andati su. Giulio Navisci ha ucciso la progenie che lo infastidiva e ha detto: aiuto, Sfortuna, ed è andato su. Okay. E adesso noi faremo lo stesso, dai. Però in modo più sguaiato. Sono solo lì 30 piedi, catta, davvero? Sì. Puoi fare domanda? Guarda. Prendendo spunto dalla mappa del castello, ora non mi ricordo più esattamente dove siamo, quella è la strada più cioè dove porta, ricordaci bene, io non mi ricordo. Dai, che la bella lucidità, vai e giù, fai i tuoi 12 movimenti che raggiungi adesso. Cosa? C'è la possibilità tipo di scorciatoia, tagliargli la strada, o conviene seguire quella strada? Andare su, no? Vedo che non passi. Il punto è... No, non passiamo nelle pareti, non questo è chiaro. È chiaro che lui, muovendosi quattro volte tante quello che si muovono i comuni mortali, e passando, vabbè, lui può passare attraverso le pareti, è vero, sfortuna no. Ma il fatto che praticamente vada come un elicottero, chiaramente non ha più aiuta. Senso pensare a una scorciatoia alternativa. Oppure ha senso pensare a al braciere, tanta carta, che quello se siete fortunati non funziona ancora, se siete sfortunati ci sono due golem che lo sanno, che fanno la guardia. Dove si sta dirigendo? Bardistran, tu arrivi lì e un corvo si posa sulla tua spalla. E tu gli dici: combatti i pipistrelli, stupido corvo. Attacco. Ah, no, pipistrello. Ah, cazzo, era un corvo. Va bene, che sono tutti uguali. Dimmi. Il corvo è Martinkov. Martinkov ti sussurra all'orecchio. Esatto. Non possiamo perdere tempo. Qui continueremo noi a combattere contro le creature della notte. Grazie al cazzo, abbiamo ucciso tutte noi. Che cazzo vuoi combattere? Ti mettere lì. Bravo. Adesso vieni con me, non rompi il cazzo. Nel frattempo loro stanno combattendo contro i Vistani, pipistrelli. I Vistani. Con i loro coltellini. Che coglio, che paura. Con i loro motorini rubati dal jungle. Effettivamente non avevamo ancora fatto battuta razzista, grazie Sara. Dei Anzi, ma grazie Martinkov, ti volevo proprio ringraziare perché tu hai questo, Fortuna che sei arrivato, grazie. Fortuna, grazie, mi raccomando. Senza di te. Porco Giuda, adesso ve li mando tutto addosso e vi faccio slamare. Ma come tutti, sono già stati uccisi dai corvi? I pipistrelli che devono attaccare qualunque cosa. Poi scusa, tanto solo... combattono con delle bottiglie rotte al massimo. Appunto, ogni bottiglia è una famiglia di corvi che muore. Ogni bottiglia è vino sprecato. Esatto. Che ho potuto portare a... Va bene, quindi allora batteranno le grazie per aver combattuto. Abbiamo fatto un cazzo, giustamente, sì. Quindi Martinkov ti dice: ricorda il tuo destino, ricorda la tua storia. E quando lo dice, e quando lo dice, io mi ricordo il mio destino. Già. Che fate cazzo di destino, di soffrire? Carino. Ma fai riferimento a cosa? Le carte che avevano letto all'inizio? 3 anni fa, esatto. Sì? Una di quelle carte. Se sì, devi dircela che carta. Ah, aspetta, ce le ho le carte. Ce le ha insieme all'inventario. Adesso lo spolvera. È vicino, qualcosa che è vicino. A... Adesso ti dice, ah, avevamo anche questa pozione. E no, quello? Non ho gli oggetti. Ah, ma questa pozione dello sconfiggistra? C'era il mercenario, il filantropo, membro della gilda, il signore oscuro. Sì. E quello è altro. E questo che cazzo è? E il veggente. Che sembra cosa? Il veggente. L'ultima carta. Ah, rivelava... devo anche leggere cosa fa. Ce l'hai scritto? Credo di sì. Sì. Se no te lo leggo. Allora. Racconta del vostro nemico, potente più dei... Ok, non... leggila tu. Attende un luogo di saggezza... calore e disperazione. Sì, a questo punto le cose di Giulio, cioè tipo a un certo punto ci scrive bla bla tipo a caso. No, perché c'è scritto no, io ho scritto racconta del vostro nemico, virgola, potente più dei, e qui è interpretabile perché la parola è un po' beh, forse materia è. No, boh, è che la scrittura di Giulio si basa anche sulla memoria. Esatto. Che ogni parola ha più interpretazione. Poi c'è una freccina che fa veggente e poi attende in un luogo di saggezza, calore e disperazione. Esatto. Direi tutto chiaro, ragazzi. Esatto, cosa? È ancora valido l'invito a Katta di leggerla tu? Oh, questo però è una cosa. Io però non ho sentito parlare il coso del mago. Come no? Che cosa? Ah, da questa cosa che Strada ha detto a sfortuna? No, non lo sai. Non dovrei fare riferimento a questo, il veggente? No. Però è vero, è carina come cosa. Si potrebbe ricordarlo. Ma in realtà questa carta parla di un luogo di saggezza più che di una persona. Il luogo di saggezza sembrerebbe il tempio. Sembrerebbe il tempio, però... fa riferimento a un luogo all'interno del castello. La biblioteca. La biblioteca. Dov'è la biblioteca? Dov'è la biblioteca? Dove sta la biblioteca? È nelle catacombe. Non è nelle catacombe. Non c'erano libri nelle catacombe. Dove cazzo sta la biblioteca? Va bene. È dove carino dove avete trovato il passaggio segreto per arrivare e tornare di sotto alla stanza del teletrasporto, dove c'era questa porta segreta quando stavate scappando dalla torre del cuore. Okay. Di cristallo. E il modo più veloce per raggiungerlo da qui è la strada che ha preso lui o no? No, è passare dall'altra torre, quella grande. Quindi ha senso andare in quella direzione. Che dove cazzo sta? Quindi secondo la mia visione, lì c'è qualcuno che ci dice come sconfiggere Strad. la tua visione è dove affronterai la battaglia finale. Cazzo. Riposo lungo. Sì. Cazzo, sono 5 turni della mia cosa. Riposo lungo. Sì. Beh, hai altre. Ogni alba si ricarica un po'. La pozione? Il medaglione? No, la pozione no, ma il medaglione sì. Che ore sono più o meno? Ah, raga, devo dirvi una cosa. Nella vita reale o nel gioco? Ah, giusto. Speriamo che se lo dice nella vita reale non è evasivo come nel gioco. Ma che cosa cambia, scusa? Perché ho la visione della mia ultima battaglia? Non ho capito. Ah, la visione che ci hanno dato quelle carte, giusto? No. È l'indizio di dove troverai il nemico durante dove si svolgerà lo scontro finale. E che ore sono, carta? Ha importanza. Vabbè, e quindi per sì. andare a sto posto devo andare dalla parte opposta, questo mi stai dicendo? Sì. Potrebbe, carta, potrebbe. Sono le 3. No, alle 17, scusa. Ah, quindi l'alba è un po' lontano. Perché all'alba? No, all'alba si ricaricava il medaglione. Si mancava tipo un'ora all'alba. A pensare. Beh, il medaglione dura quanto? 10 minuti? Sì. Sì. Quindi secondo me non riusciamo più a utilizzare. Se non con le cariche di nuovo, diciamo. Con le cose. Oddio, sono 10 minuti, è un sacco di tempo. Ma senti, se Martin convince così non c'è motivo di fare diversamente. Va bene, allora tutti alla biblioteca. Tutti tranne Atanas. Cosa? Lui è già. Allora gli tiro. Se mi cacciate un urlo, lo sento. Cioè, allora fatto io tiro un urlo. Atanas, torna indietro, è inutile di là. No. E poi. Ignoro. Niente, perché ho finito il mio movimento. Tu senti. Ignoro. Si allontana così. Ok, vi affrettate a raggiungere la biblioteca e nel frattempo, mentre Sfortuna viene trasportato nei piani più alti dal conte, viene istruito su quello che sarà il suo compito. Mossa della vita. Vuoi curare? Beh, se tanto perdo sicuramente il coso. A pack, tipo per dire. Vi segue se volete. Visto che tanto non ha usato un cazzo di quello che ha, tutti gli incantesimi. Facciamolo curare tutti gli incantesimi. Non mi ricordo questa cosa. Anzi, secondo me di slot ne avevo usati. No, oh, sì. Concentration no. Up to a minute. One minute. Nel senso, allora facciamo così. Mentre andiamo su, che tanto un minutino ce lo metteremo, no? Catta. Che cosa vuoi fare? Aura of Vitality. Ah, minchia, buono. Che così, mentre andiamo su, 2 di 6 euro. Sono 26 totali. Poi distribuisci il pool. Sì. Dai, ci riesci? Giocato l'ultimo di terzo, rega. Però ci sta 26, tirano i 5, fai per 4. No, non lo so. E tu? Se vuoi tirarne 20. Situazione punti ferita. Quant'è che recuperiamo adesso? Adesso decidiamo. Come si è messi? Siamo di 4. Punti ferita, situazione? Io male. Allora. Race 34, io 43, tu 33, Garrosh 77. Quindi tutti male tranne Garrosh. Sfortuna è full. Allora, è così. Sfortuna 3. Ne abbiamo 20 complessivi, giusto? 20 di 6, sì. No, 20 di 6. 20 di 6 complessivi. Perché fino a un minuto, e un minuto sono... Sono 2 di 6 a round, sono 10 round. Sono 10 round. Allora, facciamo così. Ripassando dalla stanza, visto che io sento Atana, sento Vardistran. 2 di 6 se lui sta fermo. Che se no, no, è un'azione bonus. No, no, ah, bonus. Bonus, scusami. Io faccio l'azione, poi devo fare concentrazione sì, sì, sì, sì, e a malincuore non inseguo più Strad. Mm-hmm. Se passo da Ilia, che qual è questa? Ah, quella lì. È catatonico. Taglio la gola. Sono a metà io. Asceo, faremo 3-3-3, mi sa noi. No, no, usali per loro. Io... E poi vediamo l'ultimo. Ho più del doppio della vostra vita di ognuno. Voglio... Allora, Salla. Dimmi. Vardistran, se taglio la gola a Ilia è brutto. Non farlo. Ma è inutile. Ma è inutile, non lo vedi? Gli do uno schiaffo, risponde. 22. Devi prima arrivarci. Ferita, Salla. Sei dall'altra parte 22. Della stanza. Sì. Sei tirati 6. 20? 22. 22. 3 di 6. Sì. 3 è buono. 3 su di me. Così. Sì, ma ne tiri 20 di 6 in totale, tiri. No. Sì. Sì. Sì, tiri 20 di 6 in totale. Ah, ok. Quindi ne ho fatti 3. Ne hai fatti 6. Ne hai fatti solo... Fatto 3. Conta 20. Ho fatti 6. Allora, fatti 6 su di lui. E noi 14. 6 su di me. E andiamo a 12. 6 su di lui. Siamo a 18. Ho ragione. Sì. Se rimangono 2. Allora, su di me sono 10. 14. 17. 22. 22 anche su di me. Vediamo se su di Giulio si è messi meglio. Tu, Giulio, quanti ne hai? Scusa. 43. Quindi ne hai bisogno anche te. Giulio forse è meglio. Sì, Giulio è meglio. 10. 24 su Giulio. Manca 2 di 6. Boh, come siete messi? Magari valuto perché io sono più di 70. Mm-hmm. Non ha molto senso. Io ho 67. Fallo su... Salla, falli su di te. Io sono quasi full. Falli su di te. 12. Adesso Race 56, io e Varitran 67, Garrosh 77. Okay, buono, buono. Sì, va bene. Bravi tutti. Io con i miei due di 6 temporanei. Ah no. Come Total War. Vabbè, Patker è full al resto. Patker a 70. Eh no, no, però avere full a noi, Pat, che... 78. Non lo so. Riga, se ci metti d'accordo, la prossima volta lo obblighiamo a collegarsi 10 minuti. Solo per fare le cure. Sì, Riga, per forza, l'unica. Possiamo farlo. Tipo gli diciamo, collegati alle 10, alle 10 e mezza ti lasciamo dormire. Dai, maniamo. Facci raggiungere il posto che poi chiudiamo. Ok. Io sono comunque incazzato perché Radin era quasi morto. Bastardo. Ma quindi cosa invece Ilia è rimasto lì? Sì. Catatonico. Bene. Dice che è catatonico. Vabbè, ci penseranno i marchi. È catatonico. Tu allora... hai detto che non gli posso tagliare la gola. Ah, gliel'hai chiesto davvero? A questo giro sì. No, non per favore. No, no, per favore. Cos'è? Allora salite perché per il momento tutto. Con lui tantissimo sono combattuto perché potrebbe sempre tornare utile in questa occasione, quindi lo chiedo a Vardistran che in teoria è il nostro non uccidono, potrebbe tornarti utile. Ma perché tu avevi un contenzioso da vivo con lui, soprattutto con lui, io lo devo ammazzare alla mia faccia. Scusa, non puoi solo togliergli la tua no, faccia? No, non è il momento per le futili vendette. Non puoi solo togliergli e riprenderti la faccia senza ucciderlo. Gli occhi, riprenditi gli occhi che non ce li hai. Non è giusto. Il momento per le futili scusa, vendette. Scusa, se tu gli togli gli occhi e te li metti... Ci sarà un... Il problema è che dopo non ci vedo veramente. Perché ho una roba che mi impedisce. Bellissimo. Oh, hai di nuovo i tuoi occhi, ma ora non vedi. Vabbè, li tieni per le occasioni importanti. Esatto. I gioielli migliori. Un monocolo di occhio. Vabbè, dai, stasera mi metto gli occhi. Tipo, tipo sputa, pulisce, ecco, se lo mette dentro. Ne metti quindi solo uno, così vedi, e poi fai continuamente l'occhiolino alla gente, così non nota che ti manca uno. Ci sta. Ripeti di nuovo l'occhiolino. Perché continua a fare perché? Correte all'impazzata contro il tempo su per le scale delle spire di Ravenloft. Il medaglione sta per curandovi intanto. Curandovi. Esatto. Nel frattempo Sfortuna è stato istruito da Strad ad eseguire un antico rituale che risulta essere estremamente simile a quella che può sembrare una cerimonia nuziale. E un coglione comunque. Scusa, ma lui ha accettato senza problemi di andare con Strad? Ovvio, aveva tre punti ferita. Aveva tre punti ferita. E gli ha detto ti faccio vincere il gioco. Ah, ok, sì, ci sta. L'avremmo fatto tutto. Anche con tutti i punti ferita. Anzi, grazie all'intuizione che il saggio Davian ha suggerito a Vardistran, riuscita ad arrivare mentre ormai oscure forze stavano tessendo il loro piano intorno al corpo che giace sul tavolo di Irina. È il tavolo di Irina o il corpo di Irina? Cioè praticamente lui ti ha detto tipo ti darò il libro e pronuncia questo rituale che è tipo io vi dichiaro marito e moglie a lui e Irina e tu sì sì certo, ottima idea. Beh, più o meno. Ti guadagnano tutti. In realtà potrebbe fare una prova tipo di raggirare, che pronuncia le parole a cazzo. Sounds good. Sembra quello, va bene. Io direi Strad può essere raggirato, ve l'ho dimostrato. È vero. Sì, è vero, è successo. Aveva tirato un 1. E Vardistran apre la porta e urla qualcosa del tipo che cessi questa follia. Di nuovo. Una volta per tutte. E con questo cliffhanger ma lui è fisicamente che andiamo alla prossima. Beh, questo matrimonio non sa da fare. Cioè. È lì, nella sua forma finale. Sì. E quel gufo gigante che ci sta per attaccare? Ma era Patk dell'altra volta. La forma finale del conto. Sì, sì, ho visto che è catta. Ci sta. Ci sta tutto. Beh, quindi Irina dovresti mettere la foto di tua moglie comunque. Non lo so. Ah, è vero, non ce l'ho. Ho sempre paura di quando arriverà Sauron da lì sotto a spaccarci. Vero che ha lo sfondo trasparente, quindi sembra proprio l'immagine. Esatto. Fatto apposta. Bene. Dai, è bello. Alla prossima. Carta come icona. Dove l'hai mandata? Sul gruppo. Thunderbird. Potrebbe essere esatto, appropriata. Va bene. Questo era l'episodio 82 della maledizione di Katta. Stiamo una battaglia senza onore. Una battaglia. Beh. E umanità. Ah, okay. Scusa, umanità. Continuiamo anche lunedì prossimo. Sì, no, potremmo. Ma... vi so dire. Vedi che il mio meme è sensato. Raga, è così bella giocare a D&D, non capisco. Ormai è spudorato. Mio... cioè, no, però potrebbe essere. Allora, siete fortunati perché lunedì prossimo non ci sono di nuovo. Strano, è sempre vacanza. E... vabbè, però ci possiamo provare a organizzare magari un altro visto giorno. Allora, proviamoci perché vabbè, a parte tutto siamo alla fine, la finiamo e così io capisco anche cosa farvi fare. Mercoledì prossimo potreste? Allora, fammi vedere, il 24. Sì. Sì. Io potrei anche avere il computer nuovo, forse. Come il computer nuovo? L'ho ordinato un mese fa, non mi è ancora arrivato. No, ma cioè, tutta la carenza di terre rare, sei te che ordini il computer ogni mese. Sì, come ogni mese, uno solo ne ha ordinato. Sei fortunato. 18:45. Sei fortunato. L'Inter gioca alle 6:45. Sei fortunato. La Virtus non credo che sia. Che giochi in realtà? Vabbè, sarei venuto lo stesso costringendoti a metterla. Ah, il 24. perché su Prime sarà. Poi 25. Allora rimaniamo per il 24, però ci aggiorniamo perché in sti giorni mi stanno cambiando tutte le pianificazioni. Sì, Salla, il 27 pensi di essere a Bologna? Attenzione alla zampata. In teoria no, in pratica potrei. Vieni apposta per il calcetto, che bravo. Che calcetto? Non sei più nella chat, bastardo, sei uscito di nuovo. Riesco sempre, dai, quella cazzo di chat. Non ci sarò mai. Devo aggiungerti ogni volta. Che palle, devo aggiungerti ogni volta. Alla, devi silenziarla e basta. Chi è che mi ha tolto dall'essere amministratore? Merda. Ma forse ci sono e l'ho archiviata, rega. Perché siete delle merde, l'ho creato io quel gruppo. Davvero? Creato da me. Ah no, nel 2015, siete delle merde, siete. Tra l'altro, se guardi bene, se il gruppo è ancora quello, ho abbandonato più di un anno fa. Ti posso rimuovere. Mettimi amministratore che aggiungiamo su. Oh, bravo. Tanto nell'ultimo anno non ne hanno organizzati. Grazie. C'è stata due anni. Mia, Giulio. No, comunque non dovrei esserci, però. Sì, sì, ci sei, ti ho inserito, tranquillo. No, non nel gruppo, non dovrei esserci quel weekend. Non dovresti esserci. No, nel senso che non è... Certo. E se ci sei, davvero ti teniamo volentieri. Beh, vabbè, ci sta. Devo capire se i miei sono a Bologna. Chiaramente se ti va. Ma anche se ti va. Vabbè, dai, ci starebbe. Vedi da così, resta giocata ai giochi da tavolo, tu potessi giocare a calcetto. Allora, spero di non soffrire come Vezza ha sofferto per i giochi da tavolo. No, no, mi sono partito. Posso dirlo, ha sofferto più Roberta. Perché? No, scherzo. No, sto scherzando. Però... Allora... vedi, voglio che cambiare squadra. Esatto. Con me, ma no, vabbè, perché non aveva ascoltato alcune cose, non aveva capito la dinamica. Grande classico. Allora, vabbè, in realtà neanche io, cioè paradossalmente quando io non ho capito la dinamica ho fatto la mossa migliore. Vi saluto, rega. Ciao. Buonanotte. Ciao Salla, ciao a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie per averlo fatto, continuate a farlo. Non se lo fai nella mia, vale? No, lo faccio solo dalla mia parte, vedi che non ti copri. Va bene. Buonanotte a tutti, ai prossimi episodi con Tycoons & Dragons, GDR, noi ci saremo. L'amichito non c'era stasera. È vero, non mi ha chiuso. Misterioso. Ciao a tutti. Vado a vedere.